inizio a questa serata. Ringrazio di essere numerosi, di aver accolto l'invito a questa nuova puntata della rassegna Caffè Philosophique, che è stata concepita dalla ripartizione scusate, devo mettermi gli occhiali, innovazione e ricerca pedagogica, e ringrazio in particolar modo il professor Andrea Felis, che è qui con noi questa sera, ed Esther Redolfi, che è qua, che ci ha aiutato in questi mesi nel concepire questo programma del metterlo in piedi e realizzarlo. Infatti la serata odierna non è il primo appuntamento, ma è il quinto di una lunga serie. Il prossimo, ve lo ricordo, ve lo anticipo, sarà il 19 marzo con Stefano Petrungaro. Questa sera abbiamo con noi come ospite gradito l'architetto Claudio Lucchin, che conoscerete, è una persona molto nota a Bolzano anche per le sue opere, e ci parlerà appunto di filosofia ed architettura insieme appunto al professor Andrea Felis. La biblioteca di solito accompagna queste iniziative, in cui crede molto, perché crede nell'incontro fra pensiero, fra persone che hanno delle idee, fra autori, autrici e il pubblico, per aprire sempre dei nuovi spiragli, dei nuovi orizzonti e anche dei suggerimenti di lettura. In questo caso abbiamo preparato una piccolissima vetrina, ma vi invitiamo anche a frequentare la biblioteca, che è un servizio pubblico, ne siamo molto orgogliosi e ci fa sempre molto piacere avere anche dei nuovi utenti che vengano a trovarci. Siamo qua sempre presso il centro Trevi, da un anno a questa parte, al piano terra, e siamo aperti tutti i giorni. Se avete piacere anche di avere un contatto diretto per conoscere le nostre iniziative, che settimanalmente vengono proposte al pubblico, basta iscriversi, è tutto gratuito, e vi invitiamo così a tornare anche alle prossime. Cedo subito la parola ai nostri ospiti, che ringrazio ancora, e ringrazio anche la collaboratrice dello studio di architettura dell'architetto Lucchin, che ci aiuterà questa sera in questa relazione, e vi auguro a tutti una buona serata. Grazie. Ecco, allora anche buonasera da parte mia. Noi abbiamo organizzato l'incontro con Claudio lungo un asse temporale che in realtà è partito circa 2 anni fa. Riprendiamo il filo di un discorso mai interrotto, ma sospeso, che era iniziato all'interno di un percorso nato su proposta di Claudio stesso alcuni anni fa, con l'Ordine degli Architetti di Bolzano, che aveva avuto una grossissima partecipazione di professionisti essenzialmente, ma non unicamente, perché ci sono state persone che si sono inserite anche all'interno dei 3 incontri che abbiamo svolto, di lunghissima durata e di grande intensità, che ci hanno permesso di affrontare da prospettive diverse le differenti angolazioni del dialogo tra quello che è non solo una pratica, non è solo una tecnica, ma è un modo di agire dentro alla realtà, costruendo cose, costruendo spazi, costruendo ambienti, togliendo cose, modificando, alterando quelli che sono i luoghi nei quali si conduce la nostra esistenza e dentro i quali assume un significato particolare cominciare a riflettere criticamente su quello che è stato fatto. Io devo dire, tornando brevemente con la memoria a quel primo momento che avevamo vissuto insieme, ero rimasto piacevolmente stupito di entrare in contatto con un mondo, con una realtà, e in specifico con Claudio Lucchin, con una figura di architetto particolarmente importante, lo posso dire in tranquillità senza rischio di sembrare piaggeria amicale, è un fatto. Una delle firme che ha più saputo ridisegnare alcuni profili della nostra realtà urbana, e non solo urbana, ma qui vicino proprio ci sono delle cose molto importanti su cui il lavoro che Claudio ha condotto, coordinando il gruppo dei suoi collaboratori, quelli che sono state le persone che hanno lavorato con lui in questi anni, si è ricostruito un profilo, si sono fatti degli interventi all'interno dello spazio urbano di particolare importanza, di particolare pregio. Ho avuto poi la fortuna, proprio nel contesto dell'incontro che c'era stato, di vedere per la prima volta un oggetto che forse ancora per il bolzanino non è conosciutissimo, sarebbe bello se venisse conosciuto di più, che è Archimod. Archimod è questo spazio espositivo permanente con plastici, con gli studi, le planimetrie di quelli che sono stati gli aspetti più rilevanti dell'edilizia pubblica provinciale degli ultimi anni e in cui l'oggetto che ospita gli altri oggetti è un oggetto di grande rilevanza visiva, anche in modo spazio molto bello, espositivo, lo spazio che ti permette di capire come si possano costruire per sottrazione degli spazi altamente significativi. È un esempio di come coniugare la riflessione, anche una forma di, chiamiamola, di esercitazione filosofica, con un'azione concreta, produce degli effetti veramente interessanti. Non sono tanto delle contaminazioni di mondi che in genere sono distanti, sono delle forme di costruzione del mondo, di costruzione della realtà, di modificazione degli spazi che hanno una profonda natura teorica, ma in cui la dimensione teorica si coniuga con una capacità di modificare le condizioni esistenti. Creare, produrre, agire, sono parole su cui la riflessione filosofica nell'ultimo secolo e mezzo si è spesso trovata a confrontarsi da angolazioni completamente differenti. Oggi è un momento particolarmente fecondo, probabilmente per garantire degli elementi di contiguità e di dialogo, di riflessione comune tra questi due, chiamiamoli così, universi, che sono gli universi concettuali, che spesso utilizzano oggetti diversi da cui partono, ma che poi singolarmente ritrovano gli stessi oggetti rimodulati da angolazioni, da prospettive complementari differenti. Dico che è un momento particolarmente rilevante perché sono venute meno alcune distorsioni storiche di molte prospettive teoriche sorte anche in epoche ormai due secoli fa, insomma, no? Basti ragionare su quello che era un po' la concezione, quello che un tempo si chiamava il materialismo storico dialettico, no? Visioni unitarie, concezioni unitarie della realtà che intendevano inglobare in un'unica prospettiva differenze, pluralità, complessità. Oggi non c'è sguardo critico, no? Nato in realtà anche all'interno della genesi del pensiero, anche tra l'altro materialista, che non è un pensiero affatto banale, è un pensiero abbastanza importante anche da rivalutare sotto la luce della criticità, che non ci aiuti a vedere come il mondo di oggi, il mondo di adesso, si opera a sfaccettature profondamente differenti, con una ricchezza, una varietà, alle volte con un rischio di eccesso di varietà, che ci inducono anche a cercare di trovare degli ordini del discorso. Ordine del discorso non è una parolaccia, non è un impianto ideologico camuffato, è un tentativo di trovare dei punti di contatto in cui discorsi diversi, spazi diversi di ragionamento possono costruire degli elementi congrui, coerenti, vicini e andare probabilmente quindi a costruire anche nuove rappresentazioni del reale. Devo dire che l'esperienza fatta con l'Ordine degli Architetti fu molto significativa. A me personalmente, ma per motivi un po' diversi, dispiace molto di non poterla continuare a caldo. C'erano delle difficoltà oggettive, di cui non voglio annoiare il gentile pubblico, però per un lungo periodo con Claudio siamo stati abbastanza in ansia di vedere di non disperdere quegli elementi. Ecco, questa serata ha un peso anche particolarmente significativo per questo elemento, consente di riannodare alcuni fili. Non sappiamo in che direzione potranno andare, sicuramente ci sono delle direzioni molto interessanti. Nel frattempo sono accadute nuove cose, Claudio e il suo studio hanno costruito nuovi progetti, uno bellissimo a Milano, veramente straordinario come tipo di progettazione di design, veramente, uno spazio pubblico di notevole fascino. Ci aspettiamo delle altre cose, io mi aspetto molte cose rispetto a alcune sfide che ci sono nel presente, che sarà un po' difficile realizzare quando siamo in una condizione magari ottimale dal punto di vista dei bilanci pubblici, però ci sono delle cose interessanti su cui sarebbe il caso di riflettere. Adesso si spalancano le porte, adesso è una questione che chiama in causa molto quello che è un sapere con un fare, sono gli spazi di apprendimento, le scuole. Questo è anche un corso d'aggiornamento per docenti, ma è anche un luogo in cui andiamo insieme a riflettere insieme su quello che è l'importanza per i nostri ragazzi, ma anche per la vita di tutti, avere degli spazi di apprendimento significativi. Guarda, alcuni anni fa ne ha costruito uno splendido poco lontano da qua, via Cappuccini, in realtà è piccolo Wendelstein, vicino a via Cappuccini, la Hannah Arendt, la Hochschule, che è un modello di come si può concepire uno spazio diverso di apprendimento in cui coesistono diversi diversi momenti, si può dire addirittura, che possono scandire diversi momenti del pensiero, diversi momenti del ragionamento. Oltre al meraviglioso chiostro recuperato in una certa maniera molto originale, sono gli spazi interni che sono di straordinaria potenzialità. Non a caso facciamo peraltro l'incontro con gli architetti proprio all'interno di questo spazio, che ecco, tra un po' riprenderà anche una cantieristica pubblica a Bolzano su alcuni di questi spazi di apprendimento, cioè l'idea di uno spazio scolare, sono delle cose che ci dovrebbero muovere da una logica diversa forse da quella da cui siamo abituati. Ecco, quindi io adesso mi sono trovato a fare un po' l'introduzione di un filosofo che vuol parlare di costruzioni scolastiche, adesso tra un po' toccherà invece a un costruttore, un architetto, ragionare di filosofia in senso più speculativo e più, non solo astratto, certamente anche astratto. Ecco, quindi io molto volentieri lascio la parola a Claudio Lucchin e poi magari ci riprendiamo alla fine di questa relazione. No, ma io mi metto volentieri qua tra il pubblico, così neanche immagini. Questa e approfitto quindi ancora una volta della gentilezza di Stefania, della collaboratrice dello studio, e quindi buona serata, buon ascolto e grazie per essere giunti così numerosi. Buona serata, così fredda. Grazie. Spero che mi sentiate, funziona? Sì. Bene, grazie dell'invito, buonasera a tutti. Faremo, non so quanto io sarò bravo a rimanere nei tempi, sono logorroico, quindi quando parlo mi perdo. Poi Andrea mi dirà basta e quindi proviamo poi a dibattere un po' su questi temi, sul quale facciamo spesso e volentieri poca riflessione. Noi mettiamo insieme questa sera, non i miei progetti di cui non me ne frega nulla, compreso me, questa sera, ma mettiamo insieme l'uomo, cioè noi, e la città, che è il prodotto più importante che abbiamo prodotto nel corso dei millenni. E noi oggi, purtroppo, per cui mi sono anche prestato molto nel provare a fare questo ragionamento, lo stiamo delegando ad altri. È un prodotto che è sempre stato nostro, di tutta la comunità, e sta diventando sempre più un prodotto privatistico. E questo è un tema che poi lasciamo eventualmente al dibattito successivo. Questa serata ha, questa mia relazione, ha 5 titoli. E il primo è: ecco perché i sapiens governano il mondo. Quindi partiamo da molto lontano, mi scuserete se sarò sintetico in alcuni momenti, ma tutto sommato facciamo una galoppata di millenni, quindi non è che potevo essere proprio così puntuale ovunque, perché altrimenti ci volevano delle giornate. La storia ci dice che 300.000 anni fa, in qualche parte dell'Africa, l'Homo sapiens è apparso e ha incominciato a girare il mondo. E anche allora sarebbe stato un extracomunitario, no? Per fortuna che però non c'erano i confini e ha potuto girare ovunque e diffondersi. A quel tempo, quando è apparso l'Homo sapiens, fino a qualche anno fa si pensava che fosse 200.000 anni il tempo di arrivo di questa specie particolare, invece adesso le ultime ricerche ci dicono 300.000 anni. Ma a quel tempo, quando noi siamo arrivati sulla Terra, eravamo una specie parallela ad altre specie umane. Ad esempio, la più famosa, Neanderthal, era un'altra specie umana, diversa da noi, molto più attrezzata per stare in natura, noi pochissimo. Vedete anche nell'immagine del primitivo Homo sapiens, pochi peli, nessun artiglio. Siamo, tutto sommato, tra i grandi mammiferi deboli, fragili. Non corriamo nemmeno molto veloci, quindi siamo inadatti a competere in natura. Tutti gli altri mammiferi sono più forti. A noi basta che ci venga addosso un gatto un po' grande e rischiamo di scappare noi, no? A quel tempo anche i Neanderthal erano infinitamente più forti di noi. In un confronto a due, ci dicono gli antropologi, le avremmo prese di santa ragione. Ma loro sono scomparsi e noi no. Perché? Intanto c'è stato un problema fisiologico. La natura spesso fa queste cose, no? Noi siamo tutti, pensiamo tutti che la natura sia lineare, che l'evoluzione sia lineare. Prima eravamo delle scimmie, poi siamo diventati dei sapiens. Non è così. La natura fa dei tentativi, ma li fa anche assieme. prova a vedere, vediamo quale specie funziona meglio, ne mette sulla pista 3-4, poi le altre spariscono. I Neanderthal avevano il cervello troppo grande, erano più intelligenti potenzialmente di noi, soltanto che il nostro fisico non era in grado di alimentarlo, di reggerlo, gli si è bruciato il cervello all'uomo di Neanderthal. Noi abbiamo il cervello, la natura ha fatto un altro tentativo, ma questo uomo sapiens, diamogli un cervello un po' più piccolo. Pare che noi ce l'abbiamo un 5% più grande di quello che normalmente la nostra fisiologia sarebbe in grado di sopportare. Il mito ci dice però che eravamo stati cacciati dal paradiso terrestre. Eva ha voluto prendere la mela che gli era stata proibita da Dio, la mela dall'albero della conoscenza del bene o del male. Conoscenza fondamentale. Noi siamo qua sulla Terra perché vogliamo conoscere, sarà uno degli elementi fondamentali in tutto questo percorso. Contemporaneamente però voleva diventare Dio, il serpente gli aveva detto questo: se mangerai questa mela diventerai Dio. E noi lo stiamo diventando, signori, noi lo stiamo diventando. Alla fine, nella bibliografia che vi fornirò, c'è un libro che mi ha scioccato molto, che vi consiglio a tutti, di un giornalista irlandese che si chiama Essere Macchina, ed è andato a fare un viaggio 2 anni fa in America a vedere i trans e a parlare con i transumanisti, coloro che vogliono trasferire la nostra intelligenza su delle macchine e vogliono trasformare l'uomo per come lo conosciamo in un altro essere. Si ritengono di essere arrivati al punto in cui possono essere loro a creare un'altra umanità, essere Dio. E quindi l'uomo sta arrivando a questo. Sono assolutamente fiduciosi nella tecnica, la tecnica e la scienza risolveranno tutto, cosa che invece io ho infiniti dubbi, per questo tengo queste conferenze, perché noi tutti ci stiamo affidando un po' troppo alla tecnica e vi spiegherò anche il perché. Allora, dicevo, siamo stati cacciati dal paradiso terrestre e siccome eravamo degli animali abbastanza fragili per vivere in natura, Prometeo ha rubato il fuoco a Zeus e ce l'ha dato. Il fuoco allude alla tecnica. Senza la tecnica noi non saremmo stati in grado di produrre quegli strumenti per sopravvivere. L'uomo non ha gli artigli, ma si gli è costruiti, le lance, le frecce, gli dicendo, sono gli artigli che ci siamo costruiti con la tecnica. Il fuoco però ha anche contribuito a farci diventare quello che siamo. Pare che la cottura del cibo abbia permesso nel corso degli anni di ridurre il tratto intestinale, quindi noi ruminiamo e digeriamo i nostri cibi molto più rapidamente di una mucca che ci impiega tantissimo tempo, e quindi è stato possibile l'ingrandimento del nostro cervello. E questo perché? Perché noi siamo una macchina fisiologica che ha una certa quantità di sangue, ha un cuore fatto in quel modo lì che è una pompa, e se il nostro cervello e il nostro intestino fossero grandi al massimo entrambi, il sangue non sarebbe sufficiente a fargli funzionare entrambi. Sta di fatto che se noi mangiamo e poi vogliamo fare qualche altra attività che ci chiede, che ci richiede molto sangue, si ferma la digestione, cioè o il sangue va di qua o il sangue va di là. Quindi noi non abbiamo sufficiente sangue per far funzionare delle macchine così grandi. Quindi la mucca ha un intestino molto grande e noi abbiamo un cervello più grande, e proprio per questo l'intestino si è ridotto grazie alla cottura dei cibi. 300.000 anni, dicevo. Però per un grandissimo tempo eravamo convinti di essere degli animali come gli altri, né più né meno. Poi, 80.000 anni fa circa, abbiamo, con la rivoluzione cognitiva, abbiamo preso coscienza di essere qualcosa di diverso, di non fare parte del mondo animale così come lo si conosceva fino allora, ma di avere delle caratteristiche diverse. Abbiamo iniziato per questo a copiare gli animali che erano più forti di noi. E come abbiamo fatto a copiarli? Li abbiamo disegnati nelle grotte. Nelle grotte primitive abbiamo disegnato, per carpirne la potenza, i movimenti, la forza, gli animali. E la cosa strana è che in queste grotte pochissimi sono le figure umane. sono sempre poco rappresentate. Animali di tutti i tipi, io vi ho portato poche immagini, ma animali di tutti i tipi, addirittura rappresentati benissimo in qualche caso, dove si poteva proprio cogliere la potenza dell'animale, e uomini pochissimi, addirittura disegnati come se fossero dei bacchettini, cioè poco interessati all'uomo, a questo altro tipo di animale. Poi però a un certo punto, accanto a queste immagini, e queste sono le incisioni rupestri della Val Camonica, è apparsa la geometria. Accanto agli animali e agli uomini è apparsa la geometria, in questo caso un labirinto, ma molti segni geometrici sono apparsi, quasi a dire che l'uomo voleva negare il mondo naturale e voleva crearne un altro. Si rendeva conto che in questo mondo naturale avrebbe fatto fatica a sopravvivere, doveva costruirne un altro. E che cos'è la città se è il nostro nuovo mondo artificiale in cui noi possiamo vivere? Per molto tempo abbiamo vissuto nelle grotte, nelle caverne. Poi, con la rivoluzione agricola, 12.000 anni fa circa, sulle date non metteteci la mano, sul fuoco, con la rivoluzione agricola, ed è interessante anche, si dice sempre abbiamo domesticato il frumento e abbiamo reso domestici gli animali. In realtà il frumento stava lì anche prima, lui non si è mai mosso. Ma domesticazione deriva da domus, che vuol dire casa, la casa chi l'ha presa? Il frumento noi l'abbiamo preso. Forse è il frumento che ha domesticato noi. Prima eravamo degli uomini liberi, abituati a correre nella savana, eravamo dei cacciatori raccoglitori incredibilmente preparati. Ogni uomo primitivo aveva la stessa competenza dell'altro. L'uomo primitivo partiva la mattina presto e tutti gli uomini del villaggio dovevano partire tutti assieme. Nessuno poteva, anche se era malato, rimanere nel villaggio, se no rimanevano tutti. Partivano tutti e dovevano, la nostra mente si è formata perché questi dovevano ricordarsi i percorsi che facevano. Non avevano mica il navigatore loro, no? Non c'era mica un qualche segnale che ci potesse dire torna a casa, mi sono perso, mi vieni a prendere. È successa una frana, oddio cosa faccio adesso, soccorso alpino, no? Là dovevi arrangiarti e dovevi ritornare a casa dopo giorni di cammino. Mica sempre trovavano il cibo subito a disposizione, qualche volta ci impiegavano qualche giorno a trovare qualcosa da cacciare e poi però dovevano memorizzare incredibilmente il percorso per tornare a casa e non si sono mai persi loro. Noi oggi col navigatore sì, anche col navigatore ci perdiamo purtroppo. E quindi ci dice Paul Byrock, che è un grande storico economista mondiale, belga, ci dice che con la rivoluzione agricola si viene a formare la città. E la città, noi abbiamo trasformato il terreno per farlo diventare campo, ma contemporaneamente il campo lo abbiamo fatto diventare villaggio. E questo è stato per noi importantissimo, perché attraverso questa forma di coltivazione abbiamo imparato a conoscere il mondo, a conoscere noi stessi, a conoscere gli altri. Lo dicevo l'altro giorno, se qualcuno di voi c'era, quella cos'era, questo autobus, questo giro i luoghi dell'amore, insomma, no? In cui siete venuti, qualcuno di voi è venuto a visitare il grande Tech Park, noi Tech Park nella fabbrica della Montecatini. Dicevo che il lavoro è importante, al di là del fatto che noi percepiamo uno stipendio, guadagniamo dei soldi, per la nostra identità e per la nostra capacità attraverso il lavoro di conoscere il mondo, di conoscere noi, di conoscere gli altri. È molto più importante questo del denaro, che alla fine un governo te lo darà, un contributo per stare in piedi, no? Uno stipendio di cittadinanza te lo daranno. Ma non risolve il problema della nostra capacità di conoscere gli altri, perché li conosciamo attraverso anche il lavoro e di conoscere noi stessi. Va bene. Primo capitolo lo abbiamo chiuso. Nel momento in cui l'uomo inizia a costruire le città, le copia dalle cose che trovava in natura. In natura c'erano le grotte naturali, le caverne. E l'uomo nelle prime città, datate 10.000 anni fa circa, inizia a connettere questi fori nella montagna, gli scava dentro dei tunnel di collegamento, sono impressionanti alcune di queste liste che io non vi ho portato perché non le ho trovate, ma ho visto un bellissimo documentario del National Geographic che faceva vedere questa città in Turchia con tutte queste sale, queste grotte collegate da questi tunnel, poi facevano questi camini per la ventilazione, vi dicendo, e voi lo vedete anche, vai avanti un po', siamo già andati oltre, ah no, mi sono dimenticato una cosa, non devo tornare indietro, il cacciatore raccoglitore abbandonato, nel momento in cui noi siamo diventati degli agricoltori, abbiamo abbandonato le capacità che aveva il cacciatore, ma abbiamo ottenuto le attitudini più preziose, che poi troveremo in tutto questo ragionamento, e sono sostanzialmente tre, io le sintetizzo in tre. La curiosità, è fondamentale per noi essere curiosi, domandarsi cosa c'è oltre quella montagna, se no non saremmo andati da nessuno, cosa c'è, perché l'albero funziona in quel modo, perché il fiume va solo in quella direzione, ce lo siamo chiesti e a forza di chiedercelo qualche volta abbiamo trovato la soluzione. Quindi la curiosità è fondamentale, e non è quando uno dice sei curioso, per fortuna che lo siamo, se no saremo degli animali come i leoni che, non essendo curiosi, se ne stanno al sole quando hanno finito di mangiare, stanno là ma non hanno mai scoperto nulla. La seconda nostra attitudine è che noi impariamo soltanto copiando e soltanto sbagliando, non abbiamo un'alternativa a questo. Allora immaginate cosa è stato per i maestri del passato quando vedevano arrivarsi in bottega un giovancello, un ragazzino di 8 anni, di 7 anni, che veniva messo a bottega, gli davano da mangiare e questo iniziava a scalpellare. Immagino il maestro di Michelangelo Buonarroti. Fino a 12 anni gli ha dato tante di quelle teghe in testa perché sto qua voleva fare di testa sua e sbagliava. Però era già dotato, perché a 18 anni supera il maestro e fa il danno. Piacerebbe qui tenere... Tutti noi sappiamo che Michelangelo è un grande genio, ma perché si dice che è un grande genio Michelangelo? Non solo perché era bravo, ce ne sono stati altri bravi come lui. Ma lui è un genio perché? Perché ha lavoro finito, o quasi, e riesce a correggerlo. E gli capita nel David che quando arriva in fondo la gamba di sinistra è più, si accorge che sarebbe stata molto più magra dell'altra, quindi si sarebbe vista la sproporzione, allora la arretra, gli mette un tronchetto davanti, con questa prospettiva non ce ne accorgiamo più. Ma opera quasi terminata, e a 85 anni, nello scolpire il Mosè, gli torce completamente la testa perché all'ultimo momento decidono di metterlo in un'altra collocazione. Prima doveva essere frontale, centrale, vedevi il Mosè ti guardava, dopo invece lo mettono di là con la tomba di Leone decimo, no? E quindi deve girare la testa, e tu davanti oggi non te ne accorgi per nulla, genio assoluto, 85 anni, mica paio. Però te ne accorgi dietro, se tu vai dietro, che cosa non, noi non possiamo andare, noi normali sapiens non possiamo andare, si accorge che la testa era stata scolpita tutta in un'altra posizione e poi la gira, genio assoluto, una cosa di una difficoltà infinita. L'altra cosa, la terza cosa che noi sapiens ci siamo portati dietro da quando eravamo cacciatori e raccoglitori è la nostra capacità di racconto. Come abbiamo fatto noi a dominare il mondo? Lo abbiamo fatto perché siamo l'unica specie animale che si organizza per grandissimi numeri. Pensate un branco di elefanti, un branco di leoni, un gruppo di scimmie. C'è un capo branco, un po' di femmine, un po' di piccoli e finisce là. Poi c'è un altro branco. Qualche giovane maschio, pochi, poi quando mettono sui grilli iniziano le battaglie. Noi siamo la prima specie umana, cioè la specie animale che si organizza per grandissimi numeri. Quindi grandissimi numeri possono fare cose inimmaginabili. E come abbiamo fatto a organizzarci per grandissimi numeri? Attraverso la parola e attraverso i pettegolezzi. Quando uno dice sei pettegolo è un complimento, non è un'offesa, perché è nella nostra natura fare i pettegoli, perché entriamo in empatia con gli altri con il pettegoletto, non entriamo in empatia parlando di filosofia o parlando dei problemi che ho, entro in empatia con i miei simili parlando di pettegolezzi. Sai che quella c'ha l'amante lì, oh che bello, e quell'altro chi se la fa con quello lì, tra, no? Dopo passato a questo primo rapporto, tu entri e inizi a dire, ma potremmo fare, immaginatevi il pensiero di Alessandro Magno quando convince i suoi giovani generali di partire dalla Macedonia, piccolo paesello dell'Europa, con un esercito di 30.000 soldati e andare a conquistare il più grande impero dell'epoca. Gli ha fatto un racconto meraviglioso. Era praticamente una sconfitta garantita. Dario aveva un esercito di almeno 100.000 uomini. Tu puoi pensare di competere, 30.000 sono noi, di là sono 100.000 a casa loro, no? Conoscono meglio il territorio di noi, conoscono meglio le condizioni climatiche, noi andiamo là e li sconfiggeremo. E ha fatto un racconto della Madonna, un racconto in cui li ha convinti tutti a seguirlo, è andato là e li ha battuti. Quando si è sistemato, è diventato, si è sposato la moglie di Dario, è diventato il capo di quel grandissimo impero, e poi ha detto ai suoi: adesso però io ho un altro sogno, vorrei andare a vedere cosa c'è oltre l'Eufrate, perché era il limite del mondo conosciuto di allora, e tutti i suoi generali gli hanno detto: no, ti abbiamo seguito qua, ma adesso il tuo racconto non ci convince, noi ce ne stiamo qua. E lui ha continuato a girare per il mondo, perché era uno curioso che non si accontentava di fermarsi in un solo posto. Ha fatto un giro incredibile per mezzo mondo per provare a convincere i suoi generali, ma non c'è riuscito. Torniamo a noi, alle città. Abbiamo detto che le città nascono con l'agricoltura, l'uomo si insedia vicino ai campi perché deve curarli, e cultura deriva da colere, che vuol dire arare il campo. Ha un legame strettissimo con l'agricoltura. Cultura vuol dire questo, non vuol dire occuparsi soltanto di teatro, di letteratura e di filosofia, vuol dire occuparsi di tutte le cose materiali che noi facciamo. E questo è un po', l'abbiamo perso di vista. Allora dicevamo, le città si connettevano, le scavavano nelle rocce, poi un po' alla volta sono diventate autonome. Voi le vedete qui, queste caverne, dietro lì in secondo piano ci sono le caverne, e davanti diventano edifici questi sassi scavati, poi diventano case. E queste sono le nostre città. Ma la cosa incredibile che io vorrei farvi notare è che sono paesaggi culturali e urbani. Non ci sono case distaccate, sì, pochi casi, ma è tutto un paesaggio che si tiene insieme. E noi oggi invece che cosa vediamo? Città fatte da grattacieli che non si tengono più insieme. Andiamo avanti. Dicevo che nella città non è più possibile la caccia, no? Perché non sono territori, non è la savana dove io posso, non ci sono gli animali liberi, ma è il luogo dove io faccio il sacrificio, e questo è un altare dove addirittura vedete il taglio per far scolare il sangue, dove lì c'erano i sacrifici animali. Nella città vengono i sacrifici animali, e un mancato sacrificio, il casus belli, che dà avvio a tutto il mito di Dedalo. Non sto qui a raccontarvelo tutto perché è lunghissimo, affascinante, poi lui addirittura si fa le ali per scappare, ma Dedalo è quello chiamato da il re di Cnosso a costruire il labirinto per inchiudervi il Minotauro, che è il figlio di sua moglie con il dio Zeus, ed è mezzo uomo e mezzo toro. Cosa significa questo? Che noi possiamo immaginare la nostra città come, torna indietro un attimo, come il palazzo di Cnosso, come le nostre città, pieno di stradine, di piazze, di corti e vi dicendo, di muri sghembi che non capisco bene, mi perdono. Quante volte mi hanno detto: questa città sembra un labirinto, mi perdo. È proprio così. Noi entriamo in questi labirinti, questo ci dice il mito, da una porta stretta, unica. E per uscirne, oltre ad avere necessità di un filo, di qualcosa che ci conduca, dobbiamo uccidere l'animale che è dentro, che è l'animale che è dentro di noi. Per poter convivere con gli altri abbiamo bisogno di una metamorfosi, da animali a uomini, altrimenti non potremo convivere con gli altri in queste misure, in queste quantità. Gli uomini possono stare assieme solo se mascherano, nascondono in parte la propria natura di animali. E quindi il labirinto ci racconta questo, che è il luogo della nostra civilizzazione. Noi dentro questa città diventiamo più civili di prima. Ma ci dice anche che nella città, con il contributo di tutti, noi costruiamo la nostra cultura. Con gli altri possiamo arrivare a traguardi impensabili, possiamo costruire qualsiasi cosa. Poi vi racconterò perché non riusciamo a fare la Torre di Babele, ma per intanto diciamo che anche la Torre di Babele oggi le abbiamo fatte, no? Ci sono grattacieli ormai alti un chilometro, fino a qualche decennio fa erano praticamente impensabili, oltretutto non avevamo la possibilità di andarci perché gli ascensori non eravamo in grado di farli salire, sarebbero scappati fuori da, per poterli far accelerare, se no non stava in ascensore 5-6 ore, insomma, per arrivare un chilometro d'altezza. Adesso ci siamo riusciti, tu devi uscire 3 volte per arrivare in cima, però ci stiamo riuscendo, siamo bravi, i grattacieli si muovono sempre meno, perfetto, un chilometro e mezzo, 2, 3, 8, no, arriveremo a Dio prima o poi, ormai ci stiamo arrivando, la tecnica ce lo consentirà. E quindi dicevamo, a cosa serve il labirinto? Però è anche vero che a quel tempo, vai avanti, vediamo, ecco, a quel tempo nella città tradizionale tutti avevano reverenza per il divino. Le nostre città di allora erano tutte condizionate dal divino. Anche la maglia urbana è condizionata dal divino. Non c'è una città che non sia regolata dalla geometria che il divino ci impone. Noi, il vuoto, che è il fatto che la materia si modifica, rappresenta il divenire delle cose che si modificano nel tempo, il vuoto, viene tutto sommato regolata, gestita dal divino, dall'eterno regolatore del mondo, che pretende da noi con la geometria di dirci in che direzione andare. Noi possiamo muoverci solo nel vuoto, perché nel pieno, fino a prova contraria, nessuno di noi è in grado di vivere, no? Cioè, se voglio entrare in un pilastro, a parte i supereroi, noi non ce la facciamo ancora. E quindi noi ci possiamo muovere solo nel vuoto, ma il divino, che noi sappiamo essere ovunque, perché il divino è dappertutto, riempie tutto, ci dà solo alcune piccole possibilità di movimento. E le strade delle città ci raccontano questo. Noi ci possiamo muovere solo in determinate direzioni, non possiamo andare dove vogliamo. E malgrado le città nelle varie culture siano diverse, pensiamo a una città medievale, una città come lo Yemen di altra cultura, di altra tipologia, pensiamo a una città cinese, malgrado che siano diverse culturalmente, a tutte è impedito di muoversi liberamente. Quindi questa logica si è trasferita in tutto il mondo, tutto sommato. Ogni città ha delle regole molto ferree, le strade ti conducono da un punto a un altro, non è che io posso a un certo punto attraversarla dicendo entro nella casa, vado dall'altra parte, perché questo mi è impedito. La cosa straordinaria che vi vorrei raccontare sono le chiese, più avanti, le chiese di Lalibela in Etiopia. Sono 5 chiese scolpite nella roccia rossa e sono meravigliose. Sono chiese rupestri scavate nella montagna e voi vedete ad esempio quei tracciati così stretti sono i percorsi per arrivare in quelle chiese. 2 persone non ci passano e dentro quelle chiese, se andiamo avanti lo vediamo, non c'è una foto interna purtroppo, dentro quelle chiese tu puoi pregare solo stando in piedi. È tutto talmente piccolo e stretto che le persone fanno fatica ad entrarci. L'esempio opposto, se volete, qualche migliaio di anni dopo, Chartres, cattedrale di Chartres, quindi chiesa medievale in Francia, bellissima, forse la più bella, è indubbiamente molto più ampia. Non è la chiesa che vi dicevo prima, questo luogo scavato nella roccia in cui noi non possiamo nemmeno muoverci perché il divino ce lo impedisce, ma ciò non di meno tutte le strutture della chiesa, tutto il nostro percorso è orientato, noi entriamo da una porta e possiamo solo camminare dritti e per invertire la direzione dobbiamo andare dietro l'abside per non voltare le spalle a Dio. Dopodiché in fondo, prima di uscire, abbiamo un percorso per arrivare a lui che è un labirinto, il più bel labirinto che c'è rimasto nella storia, probabilmente in una chiesa, e anche quello però è un percorso definito. Io non posso fare quello che voglio per arrivare al divino, devo fare un percorso definito. Dicevamo che l'architettura ci spiega che noi abbiamo costruito le case, gli edifici, in funzione delle nostre paure. E noi però per superare le nostre paure dobbiamo conoscere il mondo. E quando facciamo architettura costruiamo lo spazio, dobbiamo conoscere lo spazio, separare il pieno dal vuoto, perché la materia del nostro lavoro è definire uno spazio vuoto. E quindi attraverso l'architettura noi riusciamo a comprendere il mondo. Questo sembra una roba complessa, ma è assolutamente così. È l'architettura che ci dà. Non è un caso che noi, quando abbiamo un problema, quando abbiamo una difficoltà, ci rifugiamo nella nostra casa, che è il luogo che conosciamo meglio di tutti. E non è un caso che noi, io mi arrabbio tantissime volte quando vedo edifici per il lavoro che sono inospitali, che non sanno accoglierci. Noi viviamo 24 ore al giorno sempre, non è che quando lavoriamo possiamo lavorare in un brutto luogo e questo non ci condiziona. Ci condiziona tantissimo. Ed è importante per noi vivere sempre al meglio. Non è giusto dire: ma io sto lavorando 8 ore, poi però vado a casa è molto meglio. No, tu hai buttato via 8 ore della tua giornata lavorando in quel luogo, perché ti produrrà una serie di effetti negativi. I luoghi ci condizionano tantissimo. Bene, sono strepitose le chiese di Lalibela. Poi sapete che c'è anche una chiesa che però non è rupestre, non è scavata nella roccia, è una chiesa esterna, perché questi sono cristiani e i monaci lì custodiscono, così si dice, c'è un monaco che a turno viene chiuso dentro questa chiesa perché lì c'è l'Arca dell'Alleanza, che è la famosa teca dove sono custodite le due tavole di Mosè con i 10 comandamenti. E in questa chiesa, inaccessibile a tutti noi, c'è un monaco che viene murato vivo, nel senso che gli danno da mangiare e da bere, ma lui non può più uscire, fino alla sua morte, per proteggere le tavole dell'Alleanza. Spettacolare. Posto meraviglioso, non ci si può andare perché purtroppo è pericoloso. In ognuno, dicevo prima, in ognuno di noi con il passare del tempo si forma un'idea di città che è condizionata dai luoghi che frequentiamo, dagli ambienti in cui abitiamo e dagli spazi in cui viviamo. E ricordatevelo questo, prima Andrea Felis citava le scuole. Noi facciamo andare i nostri ragazzi, cioè la parte più fragile della nostra società, spesso volentieri in luoghi terribili. Sono a Bolzano, Montagnere, capo dipartimento dei lavori pubblici, e sicuramente la nostra provincia ha investito tantissimo sulle scuole, ma io che giro tutta l'Italia, vengo chiamato in tutta Italia a tenere conferenze intorno al tema delle scuole, vedo scuole che sono non solo cadenti, inospitali. Questi ragazzini di 6, 7, 8 anni che per 5 anni lì, poi alle medie ancora peggio, poi alle superiori non ne parliamo nemmeno, faranno 15 anni dentro ambienti che ti condizioneranno totalmente la vita, perché noi abbiamo una natura biologica ma un destino culturale. Boncinelli ci dice che il nostro cervello, quando noi nasciamo, è soltanto un terzo della sua dimensione finale. Siamo l'unico animale che ha due terzi del proprio cervello che si forma dopo essere nati. E le cose che noi apprendiamo da qui ai 18 anni, ai 17, 16, 17, 18 anni, cioè il tempo in cui il cervello non cresce più, non vengono semplicemente, dice lui, memorizzate, vengono incise nel cervello. Ciò che noi proviamo a 6, 7, 8, 10, 12, 15 anni rimarranno incise per tutta la vita. Per tutta la vita. E quindi far vivere i nostri ragazzi in scuole pessime li condizionerà per tutta la vita. Dicevo, siamo fortemente condizionati dal mondo che ci circonda. La città tradizionale è strutturata in modo da consentire alle relazioni umane, attraverso l'incontro anche casuale e diretto delle persone e lo scambio delle idee, di avere delle nuove intuizioni. Le neuroscienze ci dicono che noi ci modifichiamo tutti i giorni. Ogni giorno noi siamo diversi, perché una bella conferenza, un buon libro letto, un film interessante, una frase che ci ha colpito, fanno una nuova connessione neuronale. E a quel punto noi non sappiamo come avvengono, che cosa ci stimoli. Ad esempio, ultimi studi, perché poi oggi noi abbiamo delle macchine che sono in grado di vedere quali zone del nostro cervello si accendono, ci dicono che l'arte astratta ci stimola molto di più dell'arte figurativa. È una cosa stranissima. Tutti noi avremmo immaginato, chi di noi può dire ma un bellissimo quadro di Caravaggio, io sono innamorato, Michelangelo non ne parliamo, ma vuoi parlare male di Raffaello? No. Vuoi parlare male di Van Gogh? Meno che meno. Però ci stimola meno di un quadro astratto, magari di un artista che ci piace anche poco. Ma quello ci accende tantissimo connessioni neuronali e via dicendo. Perché questo? Il nostro cervello si è formato nella savana milioni di anni fa, perché dicevo prima, noi siamo arrivati 300.000 anni fa, l'uomo, le specie umane sono qua da 4 milioni. E noi vivevamo in natura. Il nostro cervello, la nostra vista, il nostro udito smonta quotidianamente i suoni e le immagini. Noi non possiamo percepire le cose così come apparentemente le vediamo. Il nostro cervello le smonta perché è sempre in allarme. È interessante, ci dicono i psicologi e i neuroscienziati, che quando noi riposiamo, siamo a totale riposo, il nostro cervello è al 95% del suo funzionamento. E quando siamo in una macchina di Formula 1 al massimo della concentrazione è il 100%, 5% di differenza. Tu dici, ma io che non sono lì a far niente, sdraiato, al mare, rilassato, il mio cervello funziona così tanto? Sì, perché è stato programmato quando il pericolo era ad ogni angolo. Io non potevo permettergli, il mio cervello non poteva permettersi di essere distratto e dormire, perché un serpente, una biscia, una vipera, un animale velenoso, un ragno, era dietro l'angolo. E il mio cervello doveva essere attento. E lo avete provato sulla vostra pelle tutti. Io ero un giovane padre, mio figlio urlava dalla mattina alla sera, mi saltava sulla pancia e io dormivo lo stesso, perché a mezzanotte io avevo sonno, dormivo, indipendentemente da quello che lui facesse. Poi però il vicino di sopra ha acceso una lampadina, ho sentito un rumore inusuale e io mi sono svegliato. Perché questo? Perché era un rumore non abituato per il nostro cervello e quindi si mette in allarme. Dopodiché i suoni, le immagini, stessa cosa, noi le smontiamo e le rimontiamo, ma le rimontiamo in maniera diversa l'uno dall'altro, perché le rimontiamo in funzione della nostra cultura, della nostra memoria. E quindi andiamo tutti noi a sentire un concerto, lui dice che gli è piaciuto tantissimo, io dico che è stata una porcheria. E diciamo entrambi una verità, perché a me ha toccato certe corde e a lui ne ha toccate altre. E non ci possiamo fare nulla, per cui le percezioni che noi abbiamo sono tutte diverse, perché dipendono da quello che noi abbiamo vissuto. Ci sono dei rumori che a qualcuno, che qualcuno si spaventa per quei rumori, e questi vengono attivati inconsciamente, come ci sono rumori che non ci spaventano, ci siamo abituati a sentirli, mentre se ne spaventa un'altra persona. Tu senti una grande sinfonia di Beethoven, ti tocca determinate corde, ti ricorda qualcosa di negativo, e a Beethoven non piace. A un altro invece gli tocca delle corde positive e a lui piace tantissimo. E noi non sappiamo perché queste cose accadono. Dipende dalla nostra cultura, dalle nostre esperienze. Siamo tutti animali diversi, per questo è affascinante pensare che siamo animali diversi, che viviamo cose diverse, le percepiamo in maniera diversa. Ad esempio, a me piace ricordare che funzione nella città aveva la piazza del mercato e il mercato nello specifico. Noi tutti crediamo, abbiamo sentito dire, raccontare dagli storici, ma io non penso al mercato di oggi soltanto, no? Le immagini sono quelle di oggi, vai sull'altra immagine, questa più bella fino a lì. Non penso alle immagini del mercato di oggi, penso quando eravamo a vivere sparsi nella campagna e il mercato era l'unica occasione, una volta al mese, per andare in un centro più grande, apparentemente a vendere le merci, era una delle funzioni, ma non era la più importante. Tutti gli uomini andavano al mercato per sentire cosa avevano fatto gli altri, perché loro che stavano per un mese distanti da tutti, al massimo avevano i familiari con cui rapportarsi, il vicino di casa che lo conosceva da anni, no? Poi lavorava tutto il giorno in campagna, non poteva vedere cosa facevano gli altri, andava al mercato e iniziava a scoprire che qualcuno aveva inventato una nuova mela. Allora chiedeva, come hai fatto a fare questa mela? Qualcuno non glielo diceva, poi lo scopriva da un'altra, ha fatto un innesto, dai che provo anch'io, gli veniva male le tre mele, la quarta gli veniva meglio. Noi abbiamo imparato così, e tutto sommato, qualche anno fa, un grande ricercatore italiano, il professor Ricciardi, ha scoperto che noi abbiamo i neuroni specchio, che sono fondamentali sia per entrare in empatia con gli altri, sia per copiare gli altri. E copiandoli un po' alla volta tu li superi, altrimenti noi non ci saremmo mai evoluti. il mercato serviva a questo, l'incontro casuale serve a questo, a stimolare. Cioè, quello che a me spaventa è che oggi noi abbiamo cancellato la casualità, vogliamo cancellare la casualità, ma quanto era bello girare per la strada, camminare casualmente, incontrare qualcuno, farci due chiacchiere e poi da lì ti accorgi a distanza di tempo che questa chiacchierata ti ha stimolato un po'. Il nostro cervello, ci dicono gli psicologi, c'è un bellissimo libro che vi consiglio a tutti di leggere, che vi ho messo anche in bibliografia, di John Barg, che si chiama Tua insaputa. Il nostro cervello pensa razionalmente una cosa per volta, non è in grado di pensarne due. Lo provate sulla pelle quotidianamente, se avete una preoccupazione non pensate mica all'altro, non siete in grado di pensare a due cose, ma inconsciamente lui pensa a decine di cose. Tu hai un problema tecnico, hai un progetto che non riesci a risolvere. Il mio professore mi diceva quando studiavo, Luchin, quando lei non è in grado di risolvere un progetto, lasci di tutto, vada a farsi un giro, vedrà che risolverà il progetto. E io dicevo, ma che rompi balle, sto cosa devo fare un giro che non riesco a risolverlo, no? E poi gli psicologi negli ultimi anni invece lo vengono a dire che è così. Il nostro cervello inconsciamente lavora, lavora, lavora, giorno e notte, giorno e notte, giorno e notte, e poi a un certo punto ti butta fuori la soluzione. E tu credi che sia perché casualmente quel giorno hai incontrato una bella ragazza, allora attribuisci la casualità, dici, vedi, ho incontrato una bella ragazza e questa mi ha stimolato l'idea. In realtà il tuo cervello lavorava da mesi, da settimane, da giorni, e tutto sommato è fondamentale anche la metabolizzazione. Le strade delle città, come i chiostri dei conventi, serve per metabolizzare i nostri pensieri, noi non siamo in grado di digerirli subito. La nostra tecnologia ci impone oggi di essere velocissimi, di avere immediatezza, perché internet, il computer, il telefonino sono immediati, ma il nostro cervello ha bisogno di metabolizzare i pensieri. E i neuroscienziati ci dicono, nessuno di noi potrebbe minimamente immaginare di mangiare qualsiasi cosa diversa a ogni pasto e pensare di stare bene. Tutti noi siamo coscienti che se mangiamo alimenti diversi a caso, tanti, tutti assieme, tutti buttati dentro, noi ogni giorno digeriamo perfettamente. Siamo coscienti che non è così. E perché il nostro cervello invece dovrebbe digerire tutto? Vi rendete conto che gli ultimi studi ci dicono che 20 anni fa, quando è uscito il primo smartphone, hanno fatto un sondaggio tra gli studenti universitari, la loro capacità di concentrazione era di 4 minuti e oggi è di 40 secondi. In 40 secondi che cosa puoi capire? Che cosa puoi apprendere? Che cosa puoi tenere dentro di sé? Questi percorsi che i monaci facevano, dopo aver letto la Bibbia, dopo aver letto i filosofi greci, serviva per capire il discorso, per metabolizzarlo, per metterlo insieme alle altre cose, agli altri pensieri e fare un tuo ragionamento. Noi possiamo semplicemente, nell'epoca del digitale, fare degli spot su Twitter, fare delle battute, dire che i problemi sono facili da risolvere, dire che la soluzione è bloccare gli immigranti e che il reddito di cittadinanza ha tolto la povertà all'umanità. Perfetto, abbiamo risolto i problemi del mondo, ma non è così. I problemi sono talmente complessi che noi dobbiamo tornare a fare quello che la nostra natura, evolvendosi, ci ha dato da sempre. Noi dobbiamo tornare a ragionare assieme. Perché le ultime ricerche di neuroscienziati ci dicono, sembra, che i nostri cervelli siano tutti collegati. Voi sapete che quando dobbiamo fare un grande calcolo molto complesso, noi mettiamo i computer in rete, cioè neanche Google ha computer così potenti da poter fare calcoli così complessi, ad esempio come le litiche di una stella cometa di centro. Allora la NASA chiede a molti computer in giro per il mondo un certo giorno di poterli connettere e farli lavorare tutti assieme. Sembra che i nostri cervelli potenzialmente siano questa cosa qua. Se lavorano tutti assieme sono potentissimi, se non siamo tutti scarsissimi, questa è la verità, no? Noi da soli non facciamo nulla. Andiamo avanti. In una città quello che conta, voi però capite che ogni tanto salto di palo in frasca, ma questo serve a fare un po' di casino e dopo a vedere che cosa avete capito. Nella città quello che conta non è mica il pieno, è il vuoto. La città, la sua configurazione vera, ce l'ha nei vuoti nelle piazze, nelle strade. E voi pensate oggi come abbiamo ridotto le nostre strade, è impossibile camminare. Abbiamo qui la mia amica assessora Lorenzini della viabilità, io la insulterò perché è un'amica e quindi posso permetterlo. Noi ormai facciamo i marciapiedi con in mezzo un albero e metà parcheggio. Per poter camminare camminiamo in fila indiana, quindi non possiamo nemmeno dialogare. Dopodiché tutto è stato dato alle macchine. Ormai abbiamo deciso che le macchine sono proprietarie della città. Noi siamo degli esseri umani, possiamo essere cacciati in un angolo, le macchine devono circolare, poverino. No? E invece pensate la forza che avevano le strade a suo tempo, dove noi si poteva camminare per ore chiacchierando, metabolizzando i pensieri, scaricando le nostre tensioni e via dicendo, cosa che noi non facciamo più. Ormai andiamo da un punto all'altro della città semplicemente programmandolo. Porto il figlio di qua, porto la moglie di là, vado a prendere quell'altro, vado lì all'appuntamento. Il gusto di camminare a casaccio per incontrare a casaccio qualcuno non ce l'abbiamo più, ma il nostro cervello purtroppo non è razionale. Noi sono 4 milioni di anni che tentiamo di rendere razionale il nostro cervello, ma nessuna delle nostre scelte importanti è fatta razionalmente. C'è qualcuno di voi convinto che ha sposato la donna giusta, l'uomo giusto razionalmente, perché è ricco, bello, sano? Se uno si domanda perché ti sei sposato, dice non lo so, un giorno mi sono sposato ma non so il perché. C'è qualcuno che si è pentito, qualcuno di no, ma non sappiamo spiegare il perché ci siamo sposati con quella persona, non sappiamo perché abbiamo scelto di andare a fare quel lavoro, a meno che non ti abbiano offerto una cifra straordinaria, voglio dire, che capita a pochissimi, no? Il nostro cervello non è razionale, l'universo è governato dal caos e noi siamo tutti i giorni condizionati dal caso. Allora noi siamo convinti, noi tutti qua questa sera, che i premi Nobel siano le migliori persone che l'umanità è in grado di produrre. C'è un bellissimo altro libro di un certo Taleb, che forse conosci, Cigno Nero, che ci dice chiaramente, che è un filosofo, economista, che i Nobel sono persone brave più o meno, qualche volta anche mediocre, come altre centinaia, uguali a loro identiche, e poi il caso ha deciso che uno prende il Nobel e l'altro no, uno diventa famosissimo e l'altro rimane una persona normale. E avevano le stesse caratteristiche. Noi oggi vediamo i grandi artisti della storia, ma non sappiamo se dietro a quelli ce n'erano altrettanti, altrettanto bravi, e che noi abbiamo dimenticato semplicemente perché abbiamo messo in soffitta i loro quadri e li abbiamo bruciati. Uno degli artisti che anche a voi piaceranno di più, perché c'è una mostra, andate tutti a vederla, che è Vermeer, olandese, fino al 1850 era totalmente sconosciuto, nessuno lo considerava un grande artista. Poi un critico d'arte inglese un giorno ha visto uno di questi quadri, se ne è innamorato, ha iniziato a fare la ricerca e ha scoperto che, e oggi noi siamo tutti a dire che Vermeer è uno dei più grandi artisti del Rinascimento e del Barocco, ma fino al 1800 non lo considerava nessuno. Quanti altri casi avremo? Tantissimi. Voi mi dite che le famose archistar sono quelli che sanno fare i migliori progetti al mondo? Hanno avuto semplicemente soldi e fortuna per poter diventare famosi. Ma è il caso che ha deciso che quelli sono diventati famosi. Il caso. Il più delle volte è il caso. C'è questa scrittrice, ci dice questo filosofo, Taleb, che per 10 anni ha mandato il suo libro a tutte le case editrici del mondo. Nessuna l'ha considerata, qualcuno gli ha risposto malissimo. Poi un giorno si è stufato, dopo 10 anni, ha messo questo libro su internet, un piccolo editore l'ha visto, ha avuto un successo mondiale. Caso. Caso è questo. Quindi noi siamo governati dal caso. Pensiamo che sia tutto razionale e logico, che se io faccio una certa cosa funzioni. Non è così. Metà delle cose sono casuali e voi volete dirmi che le strade, l'incontro casuale non sia importante, che solo andando su internet noi troviamo le cose giuste. Noi dobbiamo tornare a fare questa attività qua, a incontrarci, dicevo. Dicevo prima, il vuoto. Che significato ha nelle città il vuoto? Ha un significato anche, oltre che di incontro e via dicendo, ma anche di rappresentazione scenica, spazio scenico, mette in scena la vita, ma la simboleggia in una maniera spettacolare. Io vi ho portato un solo esempio, che è Piazza del Campo di Siena, che non è una piazza, torna alla fotografia prima. Questo è un teatro. E che cosa ci dice questa? Questa è una cavea greca fatta in maniera medievale, perché ovviamente avevano perso un po' di conoscenza, quindi semicerchio non andava più tanto bene, facciamolo un po' spettato, va bene uguale. Ma se vai sulla terza immagine si vede perfettamente che è una cavea. E che cosa guarda? Guarda la scena che è il palazzo comunale. Ma con un'allusione spettacolare, che cosa dice questo? I cittadini tutti controllano quello che tu amministratore fai ogni giorno. Io ogni giorno passo di qua e vengo a guardare quello che tu fai. Questo allude questa configurazione spaziale. E tutto sommato io voglio il buon governo, quello che poi Lorenzetti andrà a configurare dentro il palazzo del municipio. E poi oltretutto io da cittadino ogni giorno passo di là e vedo attraverso Fonte Gaia se la mia amministrazione è efficiente o meno. Perché portando l'acqua da molto lontano, se l'acqua arrivava in piazza a Siena, voleva dire che il territorio era sotto controllo e quindi l'amministrazione funzionava. Se l'acqua non arrivava, vuol dire che avevamo avuto qualche problema e quindi l'amministrazione non era così efficiente. Noi oggi siamo ancora capaci di avere queste simbologie. L'altro giorno portavo appunto questo gruppo di persone, tante persone, insomma, che sono venute a vedere il parco tecnologico, la fabbrica ex Montecatini. E all'ingresso di questa grande fabbrica c'è una fontana monumentale e ci sono due pigne. Tutti voi andate lì un giorno, andate a vederle, non ci fate caso. Oggi questi simboli li abbiamo completamente persi. Ma la pigna che cos'è? Simbolo del divino. Cosa voleva dire questo signor Guido Donegani, titolare della Montecatini? Che la fabbrica l'aveva costruita lui, ma era protetta dal divino. E a quel tempo lo capivano tutti. Noi oggi, perché le città per essere protette, come le case, devono avere decoro, da decus, che vuol dire che è buona cosa, perché io mi faccio vicino a me il divino solo se ho decoro, se tengo una certa qualità nelle cose che presento a lui. Noi oggi nelle nostre città abbiamo ancora decoro, voi siete convinti che le nostre città siano decorose, che abbiano un po' di qualità vera, quando noi oggi esponiamo, quando erano più poveri di noi facevano le fontane, non avevano l'acqua ma c'erano fontane ovunque, e noi oggi che cosa esponiamo? I cassonetti delle immondizie con i bidoni aperti, questo è quello che noi esponiamo, è il decoro della collettività, è questo. Noi esponiamo le macchine, l'inquinamento, il casino, i rumori e le cose che contano, perché io tutti i miei progetti una fontana la metto dentro, ogni volta il comune dopo un anno me la chiude, ve la ricordate chi è vecchio di voi? Quando ho fatto la fiera c'era una bellissima fontana, adesso hanno messo un po' di verde con un albero del cavolo, gli alberi non ci mancano, l'acqua sì, l'acqua è il segno della nostra vita, noi siamo fatti per il 70% di acqua, quindi l'acqua è la nostra vita, conta tantissimo, non è solo l'albero, è l'acqua. Andiamo avanti. In ogni comunità diversa gli stili, le forme, le rappresentazioni raccontano il grado di civiltà raggiunto dalle comunità. Prima le piramidi egizie, poi torno un attimo indietro, Angkor, la città dei Khmer in Cambogia, occupata ancora l'80% dalla foresta che se l'è mangiata, l'abbiamo scoperta solo nel 700. E poi New York. Siamo convinti che noi siamo molto più avanti di quello che hanno fatto i Khmer ad Angkor. Non avevano la scrittura e se voi andate a prendervi un libro su Angkor o andate a vedere qualche immagine, hanno scolpito tutta la loro storia sulle pareti della città. Una cosa meravigliosa. Una cosa meravigliosa. Noi siamo convinti di essere come civiltà più avanti di quelli lì. Poi loro sono spariti, noi siamo ancora qua e noi continuiamo a fare grattacieli. Spettacolare, andiamo avanti, vediamo dove arriviamo. Ecco, dicevo, il decoro delle nostre città è importantissimo. Noi abbiamo abbandonato le nostre periferie, al massimo le amministrazioni si occupano dei centri cittadini. E al di là dell'aspetto che è importante perché in un luogo pubblico, aperto a tutti, noi viviamo, ma noi li stiamo privatizzando. Le amministrazioni, perché non hanno più soldi, si giustificano in questo modo, lasciano che i privati si appropriano del nostro spazio, ma noi nei loro edifici non possiamo vivere. E qui vorrei non casualmente citare il caso di Benco, a cui noi abbiamo regalato un pezzo della nostra città, perché lui non lo sta pagando. Ci hanno raccontato che ci darà un mucchio di soldi, non li darà mai a questa città. Sta di fatto che il nostro sindaco qualche mese fa si è arrabbiato perché questo governo, che gli aveva promesso, il governo precedente gli aveva promesso dei soldi per le periferie, questo governo li ha tagliati e noi volevamo darli per fare il tunnel di Benco, i soldi delle periferie, perché via Peratonere è una periferia. Allora noi stiamo delegando ai privati qualcosa che invece spetta a tutti e a noi, la decisione su come utilizzare gli spazi pubblici. Questo non vuol dire, come spesso si sente dire, urbanistica partecipata e roba del genere, che sono tutte sciocchette che ci siamo inventati negli anni dell'imbonimento, no? Questo vuol dire però decidere realmente che cosa vogliamo fare della nostra città. Noi possiamo vivere solo in questi spazi meravigliosi che ad esempio le città italiane hanno, e che è la nostra comunità si configura, si esprime in questi spazi. Immaginiamo questa meraviglia di questa scalinata che è diventata piazza, che collega è il sagrato di una chiesa, quella che sta in alto, con una piazza sottostante, una meraviglia unica, diventa luogo scenico, diventa spazio di incontro, diventa spazio di rappresentazione, diventa mille cose, teatro, tutto quello che vogliamo. E questi però i nostri padri li facevano, ci hanno lasciato un patrimonio infinito. Noi cosa lasciamo? Le periferie di prima. Questo è quello che noi lasciamo ai nostri figli. Anch'io come architetto so già che mi aspetta l'inferno, perché noi facciamo solo disastri negli ultimi decenni, noi stiamo facendo solo disastri. Ma perché non abbiamo più il vostro supporto? Prima il dottor Felis citava questa scuola, che se qualcuno di voi non l'ha vista, andate a vederla perché è un caso unico al mondo, una scuola ipogea, scuola anare, l'ampliamento della scuola anare, 4 piani sottoterra. Vengono a studiarla da tutto il mondo. Siamo invitati quest'anno a un congresso delle scuole in Australia. Vogliono che portiamo il nostro esempio in Australia, pensate. Sono molto curioso di sapere che cosa abbiamo combinato in questo piccolo territorio, perché al mondo non l'ha ancora fatta nessuno, siamo i primi a farlo. E queste cose sono meravigliose, ma quella scuola lì io l'ho fatta perché ho avuto un grandissimo supporto da parte della dirigenza scolastica, e infatti dico che è una scuola fatta a più mani, non l'ho progettata da solo, io ho fatto la regia di questo grande progetto, ma è stata progettata assieme al dirigente scolastico, agli insegnanti, agli studenti, con un percorso lunghissimo di mediazione, di confronto, di rapporto, no? Che non vuol dire che l'architetto non può più decidere determinate cose, vuol dire che però è in grado di ascoltare. Noi non siamo più capaci di ascoltare, vogliamo solo imporre le nostre verità. Vedete un dibattito in televisione, hanno tutti ragione, citano tutti gli stessi dati ma hanno tutti ragione, dicono cose diverse e io mi domando: ma chi è che racconta le balle? Perché non è possibile che citando gli stessi dati uno dica A e l'altro dica B. Io rimango sempre scioccato, e quindi vuol dire che i numeri li tiri come vuoi. E qui torniamo al discorso: non possiamo farci un nome da soli. Il monito insito nella Torre di Babele, questo è uno dei due quadri di Bruegel, meraviglia unica, no? Che cosa ci dice? Che a un certo punto gli uomini decidono di farsi un nome da soli e per questo costruiscono la Torre di Babele. E il Signore li punisce perché vogliono farsi un nome da soli. Scombinandogli le lingue, in questa maniera non si intendono più, la Torre di Babele non si fa. Noi oggi siamo pieni di questa arroganza pensando che io mi sono fatto da solo. Quante volte lo sentiamo dire, a partire da Trump, a finire a tutti i nostri politici e imprenditori, mi sono fatto da solo. Intanto, per cominciare, nessuno di noi si fa da solo, perché come minimo abbiamo, per partire, 2 genitori, se no tu non ti fai. Dopodiché io mi domando quale persona, anche la più geniale, ma io immagino anche Michelangelo, andava in una cava a Forte dei Marmi e si faceva tirare fuori un pezzo dal cavatore di pietra, che era lui l'esperto che vedeva il pezzo di marmo giusto. Poi Michelangelo: su questo mi va bene, ma se non c'era il cavatore, Michelangelo non si portava via il marmo. Poi c'aveva decine di ragazzini che gli lucidavano la scultura dopo che lui l'aveva sgrezzata e scolpita. Senza quella gente lì non avrebbe fatto niente neanche lui, che era un genio assoluto. Immaginiamoci tutti noi che cosa siamo in grado di fare da soli: assolutamente niente. E io sono stanco di questo leitmotiv in cui tutti si fanno da soli, tutti possono fare da soli. La città è un artefatto sociale, noi possiamo in una città fare qualcosa di buono solo se collaboriamo tutti assieme, se no non facciamo assolutamente nulla. Qui vorrei ricordare il povero assessore all'urbanistica di qualche anno fa, l'architetto Silvano Bassetti, morto ormai da qualche anno, che un giorno ci disse a un gruppo di amici e conoscenti: vorrei fare il nuovo piano regolatore della città, però mi è venuta un'idea. Invece di chiamare il solito nome di prestigio, un grande urbanista, un grande architetto, si chiama Renzo Piano, chi può contestarlo? No? Abbiamo visto che lo chiamano per tutto, tra un po' adesso fa anche i ponti, insomma, no? Gli architetti adesso si mettono a fare anche i ponti, siamo a posto. Ci ha detto anche che durerà migliaia di anni quel ponte, meraviglia, fatto in ferro, il ferro si arrugginisce, però dice che durerà migliaia di anni, non possiamo contraddirlo. Però io vorrei cambiare idea, vorrei chiamare 10 di voi a darmi una mano, perché penso che il contributo di 10 persone che amano la loro città sia più importante del contributo che può dare uno da fuori, che gli può dedicare poco tempo. E questa è una grandissima verità. Noi dobbiamo tornare ad usare, a metterci in rete, in relazione, per farci forza, per convincerci delle cose che sono giuste e per dare un contributo vero alla nostra città. La nostra città, che era bellissima fino a 10 anni fa, sta peggiorando a vista d'occhio ogni giorno. Ed è colpa solo delle amministrazioni pubbliche, no? È colpa del fatto che noi ci siamo disinteressati del bene comune e del fatto che noi siamo diventati tutti un po' più egoisti. Ci interessa solo il nostro orticello, poi quello che cade fuori, chi se ne frega, tanto non abita in quel quartiere. Allora, quando uno mi dice che deve chiudere determinate strade perché lì c'è troppo traffico, teniamo Viale Trento senza neanche una macchina, non si sa bene per quale motivo, questi sono misteri gaudiosi che ci dirà qualcuno prima o poi, no? Perché dovremmo fare morire invece la gente di Via Roma? Perché chi abita in Via Roma deve essere penalizzato? Hanno tutti il diritto ad avere un'area più decente, allora se noi distribuiamo su molte più strade il traffico, l'inquinamento si spalma un po' di più, no? Ma questa cosa qua non avviene. Allora alcune persone le penalizziamo ed altre invece gli diciamo che devono avere un'aria più buona. Sempre relativamente parlando, tenete conto che Bolzano è una delle città più inquinate d'Italia, questo è drammatico, noi siamo in una conca, i venti non sono così sempre a nostro favore, qualche volta gli inquinanti stagnano e abbiamo un'autostrada che ci inquina 24 ore al giorno, tutti i giorni che Dio manda sulla terra lei inquina. E noi non abbiamo la forza da cittadini di chiedere il trasferimento dell'autostrada, di metterla in un tunnel, di bloccare questi inquinanti, di ridurre il traffico nelle nostre città. È una città che è lunga 7, 8, 10 chilometri, che in un quarto d'ora attraversi in bicicletta, in mezz'ora attraversi a piedi, e non siamo capaci di dire basta traffico dentro la nostra città. Dobbiamo cercare di morire di questo traffico, che poi il fatto del traffico e dell'inquinamento è solo un aspetto, ma noi andando a piedi, come dicevo prima, andando in bicicletta, andando in un autobus, quante occasioni abbiamo di incontrare dei nostri simili che magari non vediamo da tempo, di avere uno scambio di idee. Il primo concorso che ho vinto è successo questo: cammino per la città, uscendo dal mio ufficio che era in Piazza Erbe, incontro un collega che mi dice: hai visto che è uscito il concorso per la nuova fiera? Sì, sì, tu lo fai? No, io non lo faccio, mi dice lui, ma io penso di farlo. Sai, mi dice lui, che io avevo un'idea però su questo progetto, di metterci il parcheggio sul tetto. Io sono tornato a casa, ovviamente non avevo pensato ancora al progetto, poi abbiamo iniziato a ragionarci su e poi mi è venuta questa sollecitazione del parcheggio sopra e ho fatto la fiera con il parcheggio sopra e l'ho vinta. Se io non avessi incontrato quel ragazzo magari non l'avrei fatto sopra e avrei perso il concorso. Allora, quante occasioni noi ci perdiamo per questa cosa qua? Magari per stare attaccati, visto che siamo tutti non più giovanissimi, e di solito chi si abbona a Facebook a una certa età diventa paranoico con Facebook, no? Magari stiamo lì su 3, 4, 5 ore di notte, mi dicono alcuni amici che hanno i mariti, alcune amiche che hanno i mariti che stanno su fino alle 3 di mattina per parlare su Facebook. Ma si può buttare via il tempo invece che girare e incontrare qualcuno? L'altro giorno al mio bar in via Galvani, dove c'ho l'ufficio, tre ragazzi, una bella ragazza, c'aveva pure una minigonna, due gambe strepitose e due ragazzi maschi. Ai miei tempi, quando io ero giovane, io avrei guardato queste gambe tutto il pomeriggio provando a chiacchierare per vedere se fosse possibile instaurare qualche relazione, e questi tre ragazzi ognuno singolarmente era attaccato al suo cellulare, guardava qualcosa sul suo smartphone. Questo a me ha fatto una pena infinita, non siamo più capaci di relazionarci, veramente però. Perché poi quello che noi non comprendiamo è che pensiamo, voi sentite ripetere spesso, siamo sempre connessi, sì, connessi, ma i nostri organi di senso solo per una minima parte percepiscono, e il nostro cervello decodifica le parole, solo per una minima parte. Il resto sono espressioni facciali, odori, il tatto, tutte informazioni che ci vengono. Ma se noi siamo su uno smartphone, l'odore non lo senti più, le impressioni facciali, adesso sentiamo quelle faccine stupide, no? Sorridino, cosa vuol dire? No, chissà cosa ha voluto dirmi con quella roba là. E quindi è drammatica questa cosa, che noi stiamo perdendo questa nostra capacità. Mater, ad esempio, io vedo che mi sto allungando tantissimo, questo è drammatico. Mater, ad esempio, è l'esempio di questa città meravigliosa che vi consiglio a tutti di andare a vedere se non l'avete ancora vista, in cui parte da delle grotte naturali, la gravina che è di fronte, tutta scavata, gli uomini primitivi vivevano dentro, poi una volta hanno fatto diventare queste grotte un po' di case, poi un po' alla volta le hanno costruite una vicino all'altra, è diventato un capolavoro. Che cosa vedo io qua? Vedo un paesaggio urbano, dove la cosa che mi piace mettere in evidenza nell'anfiteatro Barisan, nell'anfiteatro Caveoso, che sono due anfiteatri che si guardano uno con l'altro, è il fatto che questa città, che nell'insieme è una meraviglia assoluta, è fatta da umili casette dove non ce n'è una che entrerà mai nella storia dell'architettura. Non l'ho fatta assemblando cose meravigliose per cui il risultato sarà meraviglioso, l'ho fatto assemblando cose umili. Se io prendo una di queste casette e dico che schifezza è, nell'insieme è un capolavoro, torno indietro, riguardiamo un attimo questa città meravigliosa, ha degli ambienti di cosa? Ho 10 minuti, madonna, sono terribile, devo ancora fare una bella parte. Che l'abbiamo fatto, madonna, ve l'avevo detto che sono logorroico, è un problema. Città meravigliosa. Eccola qua. Che cosa è successo però con il 600? Che noi iniziamo con Bacone, con Francis Bacon, iniziamo a stabilire che siamo i dominatori della natura soltanto se riusciamo a guardarne le singole parti, no? E questo è un processo culturale, quindi noi iniziamo a spezzare, non guardiamo più l'ente nella sua totalità, ma iniziamo a guardarlo per parti. Questo sicuramente ci ha aiutato, no? Perché abbiamo iniziato a entrare dentro, poi negli anni anche con i microscopi, abbiamo iniziato a capire i batteri, i virus e via dicendo. Però tutti noi abbiamo memoria di quando il medico, allora di famiglia, veniva a casa, ti guardava e ti diceva che cosa avevi. Oggi tu vai in ospedale, ti guardano 10 specialisti e non sanno che cazzo hai. Dopodiché, per non saperne leggere né scrivere, per non avere un ricorso via avvocati, ti fanno fare 32 esami. Dopo 32 esami, se non viene fuori una roba certa, ti mandano da un'altra parte. Perché ormai nessuno sa più capire quali sono le connessioni del nostro corpo. Ci eravamo convinti per tantissimo tempo che noi fossimo una macchina. E non è così. Non è così, non è tutta chimica. Quante volte ci siamo sentite dire che il nostro corpo funzionava con elementi chimici che si mischiavano, per cui succedevano determinate cose. Non è così. Addirittura stanno facendo esperimenti interessantissimi sul fatto che viene fuori, pare che sia possibile capire la nostra anima. Questo bellissimo quadro di Magritte era per dire però che noi viviamo in questo mondo dominato dal caso. La reale conquista della scienza e della tecnologia moderna, e questa è una bellissima frase scritta dal Galbraith, che è un economista americano, consiste nel prendere delle persone normali, nell'istruirle a fondo in un settore limitato e quindi nel riuscire, grazie a un'adeguata organizzazione, a coordinare la loro competenza con quelle di altre persone specializzate, ma ugualmente normali, e in questo modo consente di fare a meno dei geni. Questo è ciò che abbiamo fatto negli ultimi decenni. Abbiamo pensato che l'organizzazione, la suddivisione delle varie fasi, soprattutto quando entra in gioco questo ingegnere di Filadelfia che si chiama Taylor, che è l'uomo che inventa il management scientifico, per cui poi costruiscono la famosa fabbrica Ford, che ovviamente per montare una macchina tu la dividi il lavoro dell'essere umano in tanti elementi semplici e poi li assembli. E questo fatto qua, però, questo elemento qua, ha lavorato dentro di noi tantissimo e ha lavorato dentro le nostre città. Questa logica si è trasferita negli stessi anni, qualche anno dopo, ad esempio Le Corbusier parla di machine d'habitare e inizia a pensare che la macchina per abitare sia qualcosa dove io entro e vengo trasformato dal luogo dove abito e mi trasformerà da contadino in operaio, da persona incolta a persona colta, no? In maniera un po' semplicistica. Ma non solo, questa cosa la trasferiamo poi nelle nostre città. Ad esempio, ne avrete sentito parlare, l'urbanistica degli ultimi decenni è fatta come zoning urbanistico, parcellizzando la nostra realtà urbana in pezzettini colorati diversamente e attribuendo a ogni pezzettino una sua funzione, senza capire come queste cose devono lavorare assieme. Ma dicendo, lì metto una scuola, là metto un palazzetto allo sport, lì metto un po' di case, là metto un'altra roba. Dopodiché a noi stiamo diventando matti, perché tutto sommato noi non viviamo separatamente la nostra giornata. Sta di fatto che qualche anno fa Google, quando fa la sua sede a Zurigo, inizia a introdurre una serie di altri spazi, dal fatto che possano dormire, al fatto che abbiano una palestra, al fatto che durante il lavoro mi saltano 5 minuti, mi viene voglia di fare l'amore con la mia fidanzata che ho lì, vado in una camera e faccio l'amore, non è che devo aspettare la sera che non ho più voglia perché ho mangiato e non ho più voglia di fare l'amore, no? Oppure la palestra la faccio alle 3 quando mi è venuto il piripicchio, poi lavorerò fino alle 9. E invece noi abbiamo organizzato la nostra vita, la stiamo ancora organizzando così, per settori specifici, per trend, per come si dice, elementi di tempo molto organizzato. Allora io parto la mattina, porto mio figlio a scuola, poi prendo, vado al lavoro poi faccio pausa a mezzogiorno a l'una ricomincio a lavorare, poi vado a prendere mio figlio, lo riporto a fare musica, poi lo vado a riprendere, lo porto a casa. Nel frattempo mia moglie ha fatto la cena, poi lo prendo, lo porto all'allenamento, calcio. Cioè è una follia questa organizzazione che ci siamo dati, che fino al 700, fino alla rivoluzione industriale, non è mai avvenuta così. L'artigiano medievale aveva la casa sopra, la bottega sotto, dietro c'aveva il magazzino, la sua vita veniva lì. E quando se lo poteva permettere chiamava un maestro e insegnava ai figli. Perché le nostre scuole sono chiuse tutto il giorno, escluso le ore in cui funzionano come scuole? In Svizzera sono andato, le scuole sono aperte tutto il giorno, il pomeriggio ci sono le persone che vanno dentro, fanno le riunioni, roba varia, da noi c'è l'incubo delle pulizie, per cui bisogna tenerle chiuse e blindate perché sennò si sporcano, no? Sono spazi pubblici, è assurdo che siano chiuse, dobbiamo usarle tutto il giorno queste cose. Poi con la rivoluzione digitale, qui viene il bello, abbiamo pensato che per far funzionare meglio l'economia e il progresso, l'irrazionalità del nostro cervello e gli errori fossero un male e abbiamo messo degli algoritmi a lavorare per noi. A decidere la nostra vita abbiamo messo gli algoritmi. L'altro giorno è venuto fuori che paghiamo troppo i treni dei pendolari perché l'algoritmo ha sbagliato il prezzo del biglietto. Io non mi arrabbio più con un algoritmo perché non so chi sia, il signor algoritmo non c'è. Una volta potevo arrabbiarmi col bigliettario, con il direttore delle ferrovie, adesso con l'algoritmo è figlio di nessuno e quindi non ti puoi arrabbiare. Se un paese va in crisi perché hanno deciso di vendere tutti i titoli italiani, noi diremo che è colpa della borsa. Ma chi è la borsa? Voi sapete che ormai fanno gli investimenti migliaia di volte al secondo, spostano cifre impossibili per qualsiasi cervello umano migliaia di volte al secondo, in base a degli algoritmi. Dopodiché gli algoritmi non sbagliano mai, e se noi avessimo messo gli algoritmi a decidere anche l'olocausto, si sarebbe salvato qualche ebreo. Non si sarebbe salvato nessun ebreo, perché gli algoritmi non sbagliano mai, per definizione. Mentre ogni tanto un essere umano, anche nazista, anche fascista, qualche volta c'ha un ripensamento e mette da parte qualche ebreo, qualcuno si è salvato, per fortuna. Ma solo al 9000, che è il computer di 2001 di Senno lo Spazio, ha qualche ripensamento, c'ha un po' di coscienza, no? Si arrabbia con gli uomini che lo vogliono tagliare via, che lo vogliono spegnere, e quindi a un certo punto si ribella, no? Perché gli avevano dato un ordine sbagliato e lui, non avendo capito questo ordine, va un po' in crisi, no? Perché gli uomini, appunto, non essendo razionali, possono dare anche degli ordini sbagliati. Vi rendete conto che noi non siamo in grado di dare degli ordini particolarmente precisi, però siamo convinti che il mondo sarà meglio governato se a governarci saranno gli algoritmi. È una cosa spettacolare. Gli algoritmi li facciamo noi e noi ci affidiamo a loro, perché non sbagliano mai, ci dicono. Sapete che Google sta spendendo miliardi di dollari in due ricerche? Google, non solo loro, Apple, Facebook, queste grandi società del digitale stanno spendendo miliardi e miliardi in due settori. Il primo è l'allungamento della vita. Ci vogliono portare a vivere 150 anni, due palle pazzesche. No? E la pensione a che età ce la daranno? Tanto per cominciare, no? 125, 130 anni? Ecco. Secondo tema è il potenziamento neuronale del nostro cervello. Fanno arrivare una giornalista di tecnologia, la mettono dentro in una sala con una serie di ologrammi, la travestono da militare, gli danno un casco, gli danno un mitra, gli dicono tra 10 minuti da dietro quelle colline olografiche usciranno dei talebani, lei ha 5 minuti di tempo per ammazzarli tutti o se no verrà ammazzata lei. Lei entra, primi 5 secondi capisce che non è un ambiente reale, dopo 10 secondi il cuore inizia a palpitare perché tu sei in un ambiente reale, vede uscire i talebani, lei si agita così tanto che non ammazza nessuno e sarebbe stata tranquillamente ammazzata. Esce, tutta verità questa, questi caschi neuronali li sta facendo IBM, li sta sperimentando IBM, poi ce li metteranno nella zucca anche a noi. Esce e la riconvochiamo tra una settimana, vediamo se va meglio. La settimana dopo torna, la rimetto nella stessa sala, gli danno lo stesso casco, lo stesso mitra, la stessa scena, dopo 5 secondi escono i talebani, lei rimane fredda, il cuore non batte più come è accelerato, la pressione rimane normale, freddissima, 30 secondi, ammazzato tutto. E dice, che cosa mi avete fatto? E abbiamo cambiato il casco, gli abbiamo messo un casco di potenziamento neuronale. E la sua risposta è stata, posso averlo tutti i giorni? Ma io non amo questa cosa, che la tecnologia incida sulle mie emozioni così fortemente. Perché a quel punto non siamo più umani. E uno dei libri che vi consiglio, che vi ho detto prima, è proprio questo, dei transumanisti. Abbiamo inventato le smart cities oggi, città sempre più grandi, con sempre più tecnologia, che decidono per noi dove far andare la corrente, l'energia, come dirigere il traffico, come dirigere i semafori, come riscaldare la nostra casa, quando riscaldarla e via dicendo. Tutte le città ormai sono uguali. Abbiamo questo concetto di gigantismo, di trasparenza, di decostruzione, di soluzione, perché tutte le città hanno perso la loro identità. E identità vuol dire che io non posso renderle tutte uguali. Non le posso rendere tutte uguali, perché altrimenti perderei l'anima di queste strutture. Quando l'identità scompare, anche la realtà perde la sua validità. Prendiamo ad esempio Dubai City. Qui siamo andati un po' troppo avanti. Dubai City è una città nuova, fatta negli ultimi anni, fatta di tecnologia, dove non ci sono più praticamente le strade solo per le macchine, i marciapiedi non ci sono più, le piazze non ci sono più, dove però quello che mettiamo in evidenza è che sono tutti oggetti singoli. Questa è la differenza con Matera di prima. Matera è una comunità che diceva a tutti assieme siamo riusciti a fare un capolavoro. Singolarmente valiamo nulla perché ogni casa non vale nulla, nell'insieme abbiamo fatto un capolavoro. A Dubai è esattamente l'opposto. Noi abbiamo degli oggetti come questo disegnato da Sir Norman Foster, no? Quindi un grandissimo architetto che ha disegnato il più grande grattacielo del mondo, forse il più bello, forse i singoli edifici sono anche belli, l'insieme è inguardabile, perché siamo entrati nel tempo della città nichilista, dove non ci sono più valori, dove non c'è più nessun elemento assoluto, dove i valori sono solo elementi di coesione sociale. Ed è Las Vegas, no? Cioè, se io dalla città medievale togliessi Dio, togliessi il sacro, non la capirei più per nulla, ma se io la tolgo dalla città di oggi la continuo a capire, perché non la capisco solo se io tolgo i denari, se tolgo la tecnologia, se tolgo il potere, allora non capisco la città di oggi contemporanea. E vorrei finire questo mio intervento con una frase di Gregotti. Prima però vi dico, c'è un capovolgimento dei mezzi che diventano fini. La tecnologia e il denaro non è più un mezzo, ma è diventato un fine ormai. continuare ad accumulare soldi a che cosa ci serve? Quando sappiamo che le crisi finanziarie del mondo lo fanno delle società che non hanno nemmeno i soldi, che li hanno solo in astratto, come fai a fare i soldi dai soldi? I soldi li produci facendo delle attività, costruendo degli oggetti. Ma quando tu hai miliardi prodotti dalla speculazione finanziaria e tu non hai, tu fai scommesse se il valore del bond italiano andrà su o andrà giù, se il prezzo del petrolio andrà su o andrà giù, con dei soldi che non hai. Però tu puoi mettere in crisi la vita di tutti noi. Quando io sento dire, e Kant ci diceva che noi, non, che noi esseri umani non siamo mai un mezzo, ma dobbiamo essere trattati sempre come un fine, e quando io sento dire che ci sono società che solo per andare meglio in borsa licenziano migliaia di persone, mandando in crisi l'identità, la cultura, la qualità di persone, migliaia di persone licenziate non perché sono in crisi loro, che allora è ancora comprensibile, ma solo per aumentare il valore in borsa. La società potrebbe avere 2.000 persone in più, ma siccome questo mi fa calare il mio valore in borsa, licenzio 2.000 persone per tenere alto il valore in borsa, che è totalmente fittizio. La borsa non esiste, i valori in borsa non esistono, perché voi investite oggi 10.000 euro e domani ve ne trovate 3.000 o 14.000, non si sa, è un gioco. Ma voi giochereste la vostra vita tutti i giorni a dadi? Come va domani? Sì, un pochino, forse, ma non lo so. Questo è il problema. Concludo questo mio intervento ponendomi e ponendovi una domanda: quale baluardo abbiamo noi, quale barriera stiamo approntando per bloccare almeno un po' questa trasbordante volontà di potenza, questa forza del cambiamento ultraveloce espressa dall'economia di mercato e dalle nuove tecnologie, che oltre a stabilire il nostro personale destino pretende anche di indicarci come vivere e dove vivere, perché a breve potremo accorgerci che le città funzionano molto meglio senza di noi. Di questo incompleto, di questo pasticcione Homo insapiens, che però è anche l'unica natura che noi abbiamo. Grazie. Forse avete fatto anche qualche copia, se le persone vogliono. Questi due libri non li ho indicati in bibliografia sulla parte che vi possono dare, e mi piacciono molto, ve li consiglio. Ritorno a quello di prima, Essere una macchina, questo parla del transumanesimo, come diventare una macchina appunto nel futuro. L'altro invece parla del nostro spazio pubblico europeo, che è un'invenzione prevalentemente europea, quindi dobbiamo dargli valore. E poi un po' di libri di varia natura, di cui alcuni anche molto interessanti. Grazie. Se avete ancora voglia e pazienza di fermarvi un attimo, che è intenzione naturalmente di fermarsi un attimo, potrebbe essere un'occasione anche per riprendere alcuni degli spunti, numerosissimi peraltro, che erano presenti in questa lunga digressione. Siamo partiti dagli albori dell'umanità e siamo arrivati al transumanesimo, e però ecco, ci sono anche degli snodi interessanti, perché nonostante anche così il piacere, la dispolemica di Claudio Lucchini, si intravedono anche dei nuclei possibili di costruzione, no, di quello che sono forme di resistenza in qualche modo, no? Un processo che sembra essersi avviato e rispetto al quale però qualcosa ogni tanto ancora assume delle forme, dei sistemi di rappresentazione ancora umani, molto umani, per farla parlare qualcuno, insomma, e quindi che ci danno degli indicatori forse di possibili altri modi di vedere. Matera, se il cielo ci assiste, c'è ancora qui, anzi è diventata quest'anno capitale europea della cultura, con la piena soddisfazione non solo degli abitanti, ma con una rilevanza internazionale davvero notevole, anche in gran parte inaspettata. Ci sono degli altri validissimi esempi di recupero del territorio, dove le comunità riescono ad essere ancora un motore di trasformazione senza subire le trasformazioni e processi in senso negativo. Anche nel nostro territorio, in realtà, noi sappiamo che l'esempio della scuola che facevamo questa sera è un esempio interessante. Quando ci eravamo trovati a suo tempo con loro gli architetti, ci sono dei momenti in cui anche le collettività, le comunità locali hanno mostrato la capacità di far convivere momenti di solido realismo, cioè essere colpiti molto per terra e nello stesso tempo di guidare i processi di trasformazione, c'è uno spunto molto interessante della riflessione di Claudio, a mio parere, che è quello relativo proprio al fatto che queste costruzioni non sono sommative necessariamente, sono anche sottrattive, cioè la dimensione del vuoto come una dimensione di creazione comune, come spazio che viene abitato, è una cosa molto importante, è una riflessione che è fatta da un architetto che di mestiere costruisce, è particolarmente apprezzabile e particolarmente forte, cioè ci dice diverse cose insomma in questa direzione, quindi ci sono molti spunti che possono essere certamente anche ripresi. Quindi ecco, chi ha voglia di porre qualche domanda, qualche questione, può essere il momento, non ci diamo dei tempi lunghi, magari ecco quello, perché tra 100.000 anni, un'ora e mezza, infatti ben solidamente macinati. Se non abbiamo... Vorrei aggiungere una piccola cosa, un'ultima cosa, proprio da architetto. È una riflessione che ci tocca tutti da un po' di anni, da almeno 100 anni, ed è la diversità tra oggetto e paesaggio urbano. Un pochino è venuto fuori, ma mi piacerebbe specificarlo così. Il paesaggio urbano, identificato con Matera, ma anche con qualsiasi edificio, è quando la mia presenza, la presenza umana, modifica il luogo. E questo accade negli edifici di un tempo molto di più, oggi sempre di meno, dove invece diventano sempre più oggetti. L'esempio, secondo me, che forse conoscete, del Museo di Zadi da Roma, il Maxi, dove sono oggetti dove la nostra presenza non è più in grado di modificare l'ambiente. Noi siamo indifferenti alla modificazione dell'ambiente. In quel museo tu puoi mettere dentro qualsiasi opera d'arte, infatti gli artisti non amano esporre nulla perché le opere d'arte vengono uccise dal luogo, perché è un oggetto, cioè lui rappresenta, quell'edificio rappresenta solo se stesso. Non si modifica con la nostra presenza. Voi invece pensate Piazza San Marco, quello che volete, insomma, alle stradine dei nostri portici, il fatto che ci siano o no le persone cambia completamente la nostra percezione di quel luogo. In un grattacielo della Banca Centrale Europea, che ci siano o no le persone, sono andato a vederlo due volte, non ho mai visto entrare o uscire nessuno, che ci siano o no persone non cambia assolutamente nulla. E gli edifici sono fatti per noi, per costruire questa natura, diciamo, artificiale in cui noi siamo così fragili e all'aperto non possiamo vivere, di poter dare il meglio di noi. Io dico sempre che il nostro lavoro è quello di scenografi di Dio, questo è il mio mezzo di Dio, nel senso che dobbiamo creare la giusta scenografia, la giusta ambientazione affinché noi si possa recitare la migliore nostra parte. Se gli edifici però non rispondono, non si mettono in relazione con noi, non hanno nessuna capacità di modificarsi dovuta alla nostra presenza, quegli edifici non sono in grado di farci recitare una grande parte, perché anche noi ci accorgiamo che quel pezzo di città, che quell'edificio è indifferente alla nostra presenza, anzi gli dà quasi fastidio che ci siamo. Mentre gli edifici che si modificano sono importantissimi, e io lo vedo nel mio, ma non per citare me, scusate, insomma, perché mi viene facile lì. Se voi andate anche al parco tecnologico, questa fabbrica rigenerata, cambia tantissimo il giorno in cui è vuota, voi entrate a qualche orario in cui non c'è nessuno nella piazza interna, non c'è nessuno seduto fuori sui tavolini del bar e dicendo, e il giorno in cui invece andate c'è tantissima gente, chi vanno al congresso, chi lavora, chi... Cambia completamente il paesaggio. Allora lì ti accorgi di aver fatto un lavoro, secondo me, giusto. Mentre noi oggi siamo come architetti, infatti le chiamiamo archistar, non più architetti, quando io ero giovane i grandi architi si chiamavano maestri, coloro che erano in grado di trasferire una disciplina, oggi si chiamano archistar, coloro che sono in grado di valorizzare dal punto di vista economico qualcosa che non è valorizzabile dal punto di vista della localizzazione. Tu prendi un brutto luogo come l'area della fiera, della vecchia fiera di Milano, un posto di merda, scusate il termine, dove nessuno ci sarebbe mai andato ad abitare prima, c'era la fiera infatti, era in periferia, bruttissimo posto, tuttora. Hanno deciso di trasferire la fiera e hanno deciso di fare una grande operazione immobiliare, poi andate lì e siccome è diventato di moda pagate 12.000 euro a metro quadro un posto di merda. Ma siccome l'ha fatto Zadid, Zadid non vi ha più progettato un appartamento o Libeskind, un'altra artista, vi ha progettato una casa dove se voi entrate fate l'amore 24 ore al giorno, voi state bene sempre, non è più un appartamento, io faccio un appartamento assieme a voi, loro invece vi danno un sogno. E i sogni non hanno prezzo, siccome io ti sto dando un sogno, a quel punto economicamente non ha nessuna importanza. Perché una volta gli edifici valevano in funzione di dove si trovavano, se tu eri vicino a Piazza del Duomo valevano molto, più lontano eri da Piazza del Duomo meno valevano, almeno che tu non fossi nella zona Brera, allora era figo vivere anche a Brera. Oggi ti portano in estrema periferia e ti fanno pagare più che in Piazza del Duomo. Qual è il motivo? Che io non ti sto dando un appartamento. Siccome ti do un sogno, lo paghi quello che voglio io. E siccome siamo tutti condizionati dalle mode, dalle cose, per cui chiamano questa influencer, no? Questa che ha sposato il cantante con tutti i cosi, la Ferragni che gli ha regalato la casa lì e lei ogni tanto mette su Facebook che le foto del suo appartamento, la gente pensa che sia una roba di moda e va a pagare 12.000 euro metro quadro, come il famoso bosco verticale. Che al mio amico Boeri un giorno gli ho detto, mi domando quando un cane deve andare a pisciare se va a suonare il campanello, perché i boschi verticali io francamente non li conosco, cazzo, no? Conosco i boschi orizzontali, i boschi di pendenza, i boschi verticali non li conosco. No. Però siamo arrivati alla follia più pura in cui l'immaginario economico è diventato tutto il nostro immaginario. E anche qui Benco ci ha raccontato che il nostro Virgolo, la montagna di Bolzano, che una volta era una montagna da me frequentata, c'era una piscina, un lido, c'erano dei campi da tennis, si andava su a fare un po' di camporella con la fidanzata, oggi è diventato un luogo pericoloso, inabitabile, ma lui ci metterà su una meraviglia, porterà tutti su, ci farà un sogno spettacolare, chiamato un grande architetto Torsen, a farci un'astronave su per il Virgolo, no? E quello che non ci rendiamo conto però è che dietro a questi sogni non c'è nulla, perché lui gli abbiamo regalato uno dei brani più belli della nostra città per farci un centro commerciale, che non se ne facciamo nulla perché ne abbiamo già talmente tanti, non sappiamo cosa fare, e delle case. Mi domando quando le finirà queste case e chi ci andrà a vivere di fronte alla stazione, perché i 3.000 ci continueranno a passare, la spostano un po', la mettono in curva, ma tu il treno te lo senti e tu sei disposto a pagare 7-8.000 euro per avere l'umore del treno tutti i giorni? Io non credo. Quindi perché lui ha investito così tanto lì? Perché ha comprato molte case lì intorno? Perché oggi l'economia ha deciso che terranno alti valori economici soltanto i luoghi centrali. E noi ce ne siamo accorti. Chi ha una casa oggi a Bolzano in periferia, la sua casa negli ultimi 7, 8, 10 anni è caduta di valore. Non vale nemmeno quello che aveva speso per comprarli quasi. E mentre noi eravamo tutti convinti che ogni 10 anni la tua casa si raddoppiasse di valore, è triplicato di valore se sei in via Wettenstein, se sei lì. Ma se sei, allora a lui interessa la cubatura, non gli interessa nulla che cosa farà dentro. Quando l'ha finito, forse non è neanche più un centro commerciale. Ci metterà una banca, ci metterà qualsiasi. A lui interessa avere 300.000 metri cubi là. E questi varranno prima o poi. Perché quello che non vi ho detto prima, le nostre città stanno diventando sempre più grandi. Siamo la prima generazione nella storia dell'umanità che potrà vedere nella propria vita l'85% della popolazione mondiale concentrata nelle grandi conurbazioni urbane. Ci saranno città che avranno più di 30 milioni di abitanti. Sono città ingestibili, non hai nessuna... Io immagino il sindaco di Mexico City, potrà gestire 2 milioni, 3, 4 milioni di abitanti, l'interesse, gli altri sono abbandonati a loro, cioè non è umanamente possibile pensare a 30 milioni di persone così diverse, perché tu parti da quello che è miliardario, il padrone della telefonia messicana, che è uno dei 10 uomini più ricchi al mondo, e finisce a uno che se prende un dollaro al giorno vive con è tanto. Cioè tu vai da un estremo all'altro, non è possibile gestire città in questo modo. Ci sono studi che ci dicono che la giusta dimensione di una città è intorno alla nostra, 100.000 abitanti, 80.000 abitanti, 90.000 abitanti. Diciamo, abbiamo esagerato, siamo stati un po' troppo tiratelli, 200.000 abitanti possiamo ancora vivere, 300.000. Qualche anno fa incontro un alto funzionario cinese a Modena, a un convegno, e alla cena di gala, questo cinese simpaticissimo, al sindaco di Modena gli chiede: ma lei mi dice quanto è grande il suo villaggio? Per lui Modena era un villaggio, perché in Cina una città da 200.000 abitanti è un villaggio. Ci sono condomini a Pechino che sono grandi, 150.000 persone, cioè in un condominio vivono 150.000 persone, ed è la nostra città, più grande della nostra città, un condominio. Dove facciamo l'assemblea condominiale? Chi è l'amministratore di questo? Ma quando tu hai città da 30 milioni di abitanti, che cosa puoi fare? Assolutamente nulla. Dopodiché tutte le nostre cattiverie, ansie, voglia di cacciare via gli extracomunitari, a cui io non do un pensiero diverso se non questo, quando noi mettiamo tanti animali come siamo in un pochissimo spazio, lo stress è così alto. Se tu metti due capre in un recinto se ne stanno là tranquille, ne metti quattro stanno ancora là tranquille, ma se ne metti 200 si sbranano anche le capre, che sono animali mansueti e non rompono le palle a nessuno. Mettine 200, vedi come si incazzano anche. A noi ci stanno mettendo così tanto concentrato in poco posto che questo stress, poi ti dicono: tu hai 50 anni, che la tua azienda forse si trasferirà da un'altra parte e tu rischi di perdere il lavoro. Prima ansia. Seconda ansia, che tuo figlio che sta finendo di studiare forse non troverà lavoro. Seconda ansia. Terza ansia, sta cambiando il clima e tu non sai se tuo nipote vedrà ancora la faccia su questa terra, perché c'è il rischio che non riesca a vederla. Terza ansia. Quarta ansia, gli extracomunitari sotto spacciano e ti stanno sulle palle. Io vado a teatro sabato sera e ho paura quando vado anch'io a prendere la macchina in via Peratona, perché ci sono gli extracomunitari con le bottiglie rotte in mano e io ho paura tutti i sabati con mia moglie. Però non è colpa degli extracomunitari, è colpa nostra che non mettiamo lì una pattuglia di polizia, perché non ci sono lì, perché abbiamo dovuto dimostrare a questa città, affinché potesse votare con il referendum che andava bene così, che quella zona era degradata e poteva pensarci solo Becco. Io se parcheggio male da un'altra parte della città, 3 minuti dopo mi arriva la multa, lì i vigili non vanno mai. Tu puoi fare un incidente, ammazzare uno, i vigili non arrivano, perché? È un mistero, è un mistero di questa città, gaudioso come tutti gli altri. Dovremmo andarlo a scoprire nella Bibbia perché. Ci hanno raccontato che il parco era sotto tutela, il sindaco di prima ci ha detto che era sotto tutela, che appena io avessi finito di fare la ristrutturazione dell'ex Camera di Commercio, lui lo avrebbe messo a posto. Lo ha abbandonato completamente per dimostrare a tutti i cittadini che quella zona era degradata, pericolosa, e quindi noi abbiamo stupidamente votato sì al referendum. Oltretutto ha allargato a tutta la provincia. Mi domando, a voi vi hanno mai chiesto di andare a votare a Brunico? Qualcosa che riguarda Brunico, perché non abbiamo potuto votare anche noi la funicolare di Bressanone per la Prose? Io vado a Sciara la Prose, perché non mi fai votare anche a me? A me non mi frega niente di Bressanone e io volevo la funicolare per la Prose. E poi 16enni. Eh? E poi 16enni. Ma sì, ma 16enni non me ne frega niente, i 16enni trombano, saranno anche maturi, ma mi domando perché uno di Brunico deve decidere per noi. Perché devi decidere? Il centro commerciale, io ho sempre detto, ma se noi avessimo fatto il referendum per il termovalorizzatore, dove l'avremmo messo a Bolzano? Noi siamo in maggioranza a Bolzano, avremmo detto mettiamolo da piano, no? L'avrei progettato uguale anche ad Appiano, ma io l'avrei messo ad Appiano, perché dobbiamo averlo a Bolzano? Tutte le porcherie della provincia devono essere messe a Bolzano. Non abbiamo una circonvallazione, abbiamo il più grande tasso di inquinamento della provincia, non abbiamo nessuna attenzione e ci dicono che siamo solo bravi a lamentarci. La nostra città si sta degradando a vista d'occhio, le nostre periferie stanno diventando sempre più pericolose, periferie per modo di dire, no? E la provincia non sta investendo niente su Bolzano, vuole investire 10 milioni per non intaccare il lago di Caretta. Poverino il lago di Caretta, bellissimo, ho la casa anch'io sulla Caretta. però dobbiamo investire 10 milioni per farci un tunnel lì, perché dobbiamo proteggere il lago, e Bolzano merita 10 milioni per fare una nuova variante. E noi, quando ci hanno fatto la variante, questa famosa lungo il fiume, insomma, abbiamo l'unica tangenziale ad una corsia, che se entra un camion di male maniera ti sfianca la macchina perché ti viene addosso. Cioè, questa sarebbe la nostra tangenziale, ma vi rendete conto? L'altra di ritorno ce l'abbiamo su una strada interna alla città, dove se uno parcheggia ti blocca il traffico. Che abbiamo pure messo gli stalli per le macchine, in maniera stupida, che se uno manovra ti blocca il traffico, se un camion deve entrare. Allora abbiamo fatto tutto sbagliato. E noi facciamo finta di niente. Voi sapete che noi abbiamo tassi di tumore paragonabili a Taranto, ma non ce l'hanno detto mai nessuno. Noi i tassi di inquinamento sono altissimi nostri, però noi facciamo finta che vada tutto bene, perché quando ci alziamo gli occhi in alto vediamo il verde delle montagne, e a tutti noi sembra sempre di essere inferiori. Guarda che bel verde che c'è intorno, ma noi respiriamo un'aria cattivissima. E allora noi facciamo forza verso queste giunte provinciali, comunali, per cambiare qualche cosa radicalmente di questa nostra situazione, e facciamo finta di niente sempre. Gli abbiamo regalato a Benco, a Tosolini già negli anni prima gli abbiamo regalato molte cose, poi adesso a Benco, poi i Polla che si sono comprati un altro pezzo di città, noi la stiamo svendendo per niente, voglio dire, no? E noi consentiamo, ad esempio, di avere cantieri perenni che durano decine di anni, è accettabile? Questo è il decoro di una città. Io ti faccio pagare l'IMU anche. Se tu dopo 3 anni non hai finito il tuo edificio, ti faccio pagare l'IMU. Voglio vedere se non lo finisci. No, siccome non glielo facciamo pagare perché non è accatastato, allora, dopodiché, a te ti rompono le balle se devi vendere casa, non è accatastato nella maniera corretta, no? Per vendere un appartamento da 100.000 euro. E a lui fa 1.000 case tutte non finite e nessuno gli dice niente. La nostra comunità non è più in grado di lamentarsi seriamente per vivere in un ambiente decoroso, per poter vivere serenamente in maniera decorosa. Adesso ci hanno raccontato che ci mettono il tram, ci desperano la città, ci faranno spendere l'ira di Dio e avremo un servizio uguale a prima, perché per mettere il tram a Bolzano prima devi cambiare la testa di tutti noi e dobbiamo smetterla di andare in macchina. Allora il tram non servirebbe neanche più, basta comprare gli autobus elettrici, vanno molto meglio dei tram, no? E oltretutto costano meno. Noi dobbiamo smetterla di pensare che il problema sia conseguenziale. Ve l'ho detto prima, che non è vero che la natura fa le cose, prima ne faccio una, poi ne butta fuori 4 o 5, poi vede quella che funziona meglio. No, le altre se ne vanno via e una resta. E noi dobbiamo fare così, dobbiamo cambiare culturalmente la nostra percezione della città, del valore che ha la città per noi. Per noi è fondamentale vivere in città e starci bene, perché è la nostra linfa vitale. È questo che io volevo fare passare questa sera. Le città non sono solamente ambienti che noi... A me dispiace quando io il sabato pomeriggio o la domenica pomeriggio nelle piazze della città non vedo più noi, ma vedo solo extracomunitari seduti sulle panchine. Noi non ci siamo più. Noi tutti scappiamo, uno di qua, uno di là, al centro commerciale, tantissimi di noi al centro commerciale, terribili. Portare i bambini piccoli al centro commerciale, follia totale. Ma le piazze sono occupate dalle badanti ucraine, dagli extracomunitari di qualche altra nazione, che si siedono sulle panchine, chiacchierano e si riappropriano di quello che facevamo noi quando eravamo più poveri. Dialogavamo, ci raccontavamo delle storie, stavamo lì a cambiarci delle idee, ad incazzarci, ascoltare la partita di calcio e dice, oggi non lo facciamo più. Ma stiamo perdendo delle cose, non le stiamo acquisendo, stiamo perdendo delle nostre capacità. Più noi deleghiamo la tecnologia di fare delle cose, più noi diventiamo stupidi.